Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioinformazione. Radioinformazione. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. Radioazione. Thank you. Il gruppo di refrattario si è arrivato nella grande piazza della stazione ferroviaria. Con la stessa stazione alle loro spalle, davanti si aprono varie vie che portano in zone diverse della metropoli. Se i quartieri sono occupati dai residenti, non si può dire la stessa cosa delle strade intermedie, le cosiddette terre di nessuno. In questi momenti caldissimi della rivolta generale, tali strade vengono battute senza riposo dagli autoblindati dei Tarsport. Basterebbe comunque poco a ripulire la strada dagli uomini topo. Nel momento in cui la popolazione decidesse di attaccarli, trovandosi Tarsport nelle strade che dividono i quartieri, questi sarebbero praticamente schiacciati. Ma ancora nessuno è cosciente della realtà, la rivolta vera e propria l'ha già creata il blackout nelle istituzioni governative di Nazero 13, ma le notizie negli altri quartieri tardano ad arrivare, inoltre i media corps evitano di informare su quanto sta avvenendo per evitare, da buoni schiavi del governatore, che il coraggio e la determinazione a mettere la parola fine alla sottomissione possa espandersi altrove. Quindi nessuno si spinge oltre per il momento. I Tarsport hanno ordine di non provocare, anche se la loro stessa presenza è una provocazione. I rivoltosi invece, se non quelli che in corteo sono arrivati a pochi metri dalla Torre M, dopo aver regolato i conti con le istituzioni politiche della metropoli, si limitano all'occupazione dei quartieri. I refrattari, dopo alcuni accordi tra di loro, si suddividono in tre gruppi, da cinque. Uno attraverserà i quartieri della zona portuale, uno si inoltrerà in pieno centro storico e l'altro si dirigerà nella zona più in alto oltre i decumani. Il primo obiettivo dei ribelli, ignari della grandezza della rivolta, è trovare Valéry, che sperano sia nascosto da qualche parte al sicuro. Uno di quei luoghi conosciuti solo ai refrattari o se nel caso dovrebbero far perdere le proprie tracce improvvisamente nell'attesa di abbandonare definitivamente la metropoli. Nel formare questi gruppi, con i gruppi refrattarius si dividono tra le persone più affine, perché è importante che in ogni passo, in ogni istante, ognuno sa come si comporterebbe l'altro, senza correre rischi né per sé né per gli altri. I tre gruppi che partono divisi si ricongiungeranno dall'altro lato della metropoli, proprio nel tunnel da dove hanno partorito l'idea di evadere da Nazero 13, che tra l'altro è uno di quei luoghi sicuri che conoscono solo loro. Uno dei tre gruppi è formato da Mark Alniaki ed Ashlem. I quattro fanno parte del gruppo che si incammina verso la parte più alta rispetto ai decumani. Il gruppo di fuoco, come viene anche definito dagli altri refrattarios anche un po' ironicamente, ha superato da poco la piazza della stazione e dopo aver attraversato l'area del mercato si inoltra nello stradone che dritto per dritto li porterà al tunnel che dista circa 3 km. Un blindato dei Tarsport si è appena rigirato per percorrere la strada al contrario, già imboccata da altri tre mezzi. I refrattari attendono che il mezzo si allontani per almeno una centinaia di metri e poi iniziano a risalire la strada camminando in fila indiana, restando molto radenti ai palazzi. Non dicono una parola durante il loro cammino e si limitano a guardare esterrefatti alle barricate che si innalzano davanti ai primi vicoli che superano. Gli stessi picchetti che stanno subito dopo le barricate notano subito i quattro refrattarios. Qualcuno ogni tanto li invita ad entrare nei vicoli perché camminare all'esterno potrebbe essere molto pericoloso, ma i quattro camminano, continuano la loro attraversata ringraziando con un cenno della testa ed il pollice alto. Air. Radiazione 21 luglio 2014, ultima diretta di Radiazione per questa stagione 2013-2014, nessuno ha vinto il campionato, l'abbiamo vinto noi. Un po' in affanno, anche oggi. Anche oggi, un po' in affanno, orario insolito, ore 19. Allora, ricordo diretta d'azione che comprenderà lettura, controinformazione e musica, ovviamente. Lettura da oggi finiremo con l'ultima diretta d'azione, finiremo anche I Sabotatori di Edward Ebbey. Na 013 non finirà oggi, finirà mai a ottobre. A ottobre quando uscirà. Quindi a Napoli si dice la cazzimata del finale non ci sarà, quindi vabbè, dovrete scaricarvi o recuperare il materiale di controinformazioni Na 013 e con disco quando uscirà ad ottobre, quando uscirà ad ottobre. Quindi vabbè, ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@odissici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, materiale da far apparire sul sito di Radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata. Lo ricordo, la radio va in pausa, il sito continua ad essere aggiornato quotidianamente, non si va in vacanza. Non si va in vacanza, e quindi continuate a leggere la controinformazione su Radiazione, dove potete anche scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina di download, o potete riascoltare le vecchi podcast delle dirette d'azione degli ultimi due anni, o qualche documentario o intervista molto interessanti che trovate sempre nella categoria ascolta le dirette d'azione. La radio trasmette sul server anarchia.net del compagno di Anarchist Library, che ci ha messo a disposizione sia per sito che per radio. Lo ringraziamo sempre, e stavolta l'ultima volta a voce prima di ottobre. Ora ci ascoltiamo un brano. Lui è Byton, il brano è Straight, e poi dopo si torna qui e si inizia subito la lettura di I Sabotatori di Edward Ebbey, l'ultima botta. 21 luglio ritorniamo con i sabotatori. Chi volesse il riassunto delle puntate precedenti si va a scaricare i podcast o che ascoltare noi mettiamo, anche senza scaricare. Ascoltare anche i podcast che sono messi a disposizione. Ricordiamo solamente che ci muoviamo alla fine delle avventure di questi quattro, di questa batteria di quattro sabotatori che hanno sconquassato gli Stati Uniti centrali a difesa del territorio, a difesa dei Grand Canyon, della natura che vive all'interno dei canyon di quel territorio, contro una devastazione industriale, contro autostrade, pontini, industrie petrolifere e via dicendo. Adesso sono rincorsi da una squadra di recupero e soccorso cosiddetta, una posse, ovvero sia un gruppo di paramilitari ben pensanti, capitanati da un vescovo, un bishop, come si dice in inglese, e adesso infatti andiamo a vedere cosa succede nel Land's End, l'ultimo rimasto. L'enigmatica e ambivalente oscurità dell'alba, il cielo una massa ininterrotta di nubi violente, il temporale è imminente. Quello che videro osservando dal margine roccioso sopra i Fens verso Lizard Rock non preannunciava nulla di buono. Un elicottero nuovo e più grande, vicino ad un fuoco fumoso, quattro camion, due grandi tende canadesi, sacchi a pelo o uomini sparsi sulla sabbia e le pietre, o morti, o addormentati, o entrambe le cose. Ma il problema non era solo quello. Perché si sono accampati lì? Chiede Haidak. Con tutto il deserto bello e vuoto e pulito che c'è, dovevano accamparsi proprio lì. Perché lì? Devo tornare alla mia erba medica e ai miei cocomeri, sta pensando Smith. Da tutti e due, Green River, a Green River hanno bisogno di te. La pioggia sta arrivando, ai bambini manca il loro papà. Sono stati iniziati sulla grande houseboat, l'arca di Seldom. La stella del mattino brilla a destra attraverso una finestra nelle nuvole. Giove, pluvio, pianeta della pioggia, radioso come cromo in un cielo d'avorio, tramonto di lavanda, il crepuscolo della libertà. Perché proprio lì? Santa Madonna, esattamente sopra quel cazzo di nascondiglio dove abbiamo messo la nostra roba da mangiare. Non lo so, George, dice lui. Fortuna cieca, ammetto, ne abbiamo un altro vicino alla Francis Spring. Ma non dobbiamo andare da quella parte, dobbiamo andare nel Maids. Beh, per il Maids bisogna vedere, George, è piuttosto difficile trovare il modo per arrivarci nel Maids. È ancora più difficile trovare quello per uscirci. Non ci sono acque perenni, nessun alce un po' lento può scappare. E nient'altro da cacciare, stavo pensando che forse potremmo arrampicarci sopra il bordo e poi marciare in direzione nord verso Green River. Tu sei pazzo. Saranno 100 e passa chilometri. Staranno piantonando la tua casa giorno e notte. Se cerchi di tornare a casa ti sbatteranno in prigione. Smith allora mastica un filo d'erba. Forse, forse no. La mia vecchia è piuttosto sveglia e può trovare sicuramente il modo di fregare Bishop Love. Bishop Love. Ma non ci sono più solo lui e la squadra, Seldom. Ci sarà la polizia di Stato. Per quel che ne so io, forse anche l'FBI e la CIA, dovremmo starci nascosti per un po', almeno per tutto l'inverno. Ma Smith è tranquillo mentre osservano l'accampamento sotto a circa un chilometro. Ancora nessun segno di movimento laggiù. Oltre l'accampamento e Lizard Rock ci sono gli innumerevoli canyon spettrali del Maids. Beh, George, davvero non lo so. Magari potresti fare la stessa cosa laggiù. Se riuscissi ad arrivare al fiume avresti buone possibilità. Il Green è pieno di pesci gatto, insomma, qualcosa del genere, e sono molto buoni da mangiare e in genere anche facili da prendere. E poi nei canyon secondari si trovano anche dei cervi. Non tanti, ma qualcuno lo trovi, e anche qualche cavallo selvaggio e un po' di pecore delle montagne. Di tanto in tanto ti vedi qualche vacca morta che galleggia sul fiume. Magari potremmo andartene giù io, una ogni tanto, insieme ad una bella flotta di cocomeri a fine agosto. Ma non hai risposto a quello che ti ho detto, osserva Haidak. Smith non risponde. Haidak prosegue sull'altra pista. Beh, se riesco a prendere un cervo al mese sopravviverò. Posso conservare la carne facendola essiccare al sole. Se riesco a prenderne uno ogni 2 settimane diventerò grasso e felice come un castoro. Costruirò un barbecue per il pesce, senza contare quello che c'è nei nascondigli che abbiamo preparato. Ci saranno, vediamo, fagioli per almeno un mese. e non avrò bisogno di nessuna vacca morta. Un cucumero sì, sarebbe carino, immagino. Se vuoi mandarmene giù qualcuno, ma tu, è meglio che resti. Smith sorride tristemente. George, dice, ho già fatto quel genere di cose molte volte e non è il cibo il problema. Beh, cazzo, nemmeno a me preoccupa l'inverno. Sistemerò una di quelle vecchie rovine a Nasazzi degli indiani e mi troverò una comoda caverna nella roccia e mi terrò a portata di mano tutto il ginepro e il pino necessario per ogni bufera in arrivo. E quando questi vigilanti se ne andranno tornerò indietro a prendere il mio zaino, il mio sacco a pelo. Non è mica una cosa di cui preoccuparsi. Non è nemmeno l'inverno. Silenzio. Sono sdraiati sulla roccia e osservano il nemico dormire di giorno, avanzare di notte, ma la fame morde lo stomaco. Entrambe le borracce sono di nuovo vuote. Aidak, irrigidito dalle ammaccature e dai bendaggi, gli abiti ridotti a stracci, ha soltanto il suo coltello, la pistola, il fucile e la corda e qualche fiammifero nella tasca. Smith è dimagrito ed esausto, sporco, affamato, ha nostalgia di casa e comincia a rendersi conto che è iniziata la mezza età. «Tu pensi che soffrirò di solitudine?» dice Aidak. «Esatto. Pensi che io non possa resistere alla solitudine?» «Può essere tremenda, George, la solitudine.» Una pausa. «Magari hai ragione, vedremo.» Aidak si gratta le punture di zanzara sul collo peloso. «Beh, ma voglio provarci, capisci? Una cosa che ho sempre voluto fare in tutta la mia vita. Voglio dire, vivere per conto mio, da solo, nella natura selvaggia.» E batte leggermente sul fusto del suo fucile. Tocca il manico del suo book special. «Secondo me ci andrà tutto bene, cazzo.» Forse anche più che bene, Seldom, è una volta l'estate prossima verrò su al fiume a trovarti o a trovare moglie. E tu sarai in prigione, ovviamente. Un altro sorriso forzato di Smith. Tu sei sempre il benvenuto, George. Se io non ci sarò potrai dare una mano con i ragazzi e i lavori di casa mentre Susan guida il trattore. Potrei mandare davanti il mio vecchio posto. Beh, mi sembrava che tu non c'entrassi niente con l'agricoltura. Io sono una guida di fiume, dice Smith, un barcaiolo. Il ranch è soltanto quella cosa che chiamano sicurezza sociale. Il vero agricoltore è Susan, una delle mie mogli. Lei ci sa fare, io ho il pollice nero, non verde. Ad ogni modo voglio tornare laggiù per qualche giorno. Ah, ti staranno aspettando. Solo qualche giorno, poi forse caricherò uno di quei gommoni e scenderò il fiume per venire a vedere come te la cavi. Diciamo tra un paio di settimane e ti porterò qualche cucumero e i giornali, così potrai leggere delle tue geste. E l'altra moglie? Io ho tre mogli, dice orgogliosamente Smith. E loro? Smith riflette. Vediamo. Susan è quella che voglio rivedere. Lancia un'occhiata all'albeggiante est. Adesso dovremo nasconderci, George, dormire un po'. Tra non molto i nostri amici laggiù si metteranno a cercarci. Ho una fame che non ci vedo. Non sei l'unico, George, ma adesso dobbiamo nasconderci. Se solo trovassimo il modo di attirare quei tipi lontano dal loro accampamento laggiù, distrarli per qualche minuto, giusto il tempo di strisciare fin là e prendere la nostra roba dal nascondiglio. Riposiamoci un po' prima, George, e poi ci penseremo su. Su, aspettiamo che cominci a piovere. Inciso. Giusto per calibrarci, gli altri due componenti della banda lunedì scorso abbiamo raccontato come si sono arresi alla banda. Il dottor, dottor Service e Bonnie Abzug sono andati via, si sono consegnati. Si ritirano di 500 metri nell'oscurità dei fens, camminando sulla roccia senza lasciare alcuna traccia, e si infilano a dormire sotto una sporgenza profonda, nascosti da lastroni franati di arenaria e individuabili solo da un'ispezione ravvicinata, mormorando e borbottando con lo stomaco questuante, gli arti indeboliti e fiacchi per la mancanza di proteine, le gole inaridite dalla sete. Cercano di dormire e restano per un po' nella consapevolezza del dormiveglia, sulla linea del sonno, scossi però da piccoli incubi, lamentandosi. Lontano sul plateau, 100 metri sopra, i lampi frustano i pini, seguiti dai rombi dei tuoni che rotolano nei canyon attraverso le nuvole, nel grave silenzio di un'alba senza sole. Alcune gocce cadono sulla roccia levigata oltre il rifugio del loro tetto naturale, lasciando piccole macchie umide che si dissolvono rapidamente, evaporando nell'aria assetata. Alla fine, raggomitolato su un fianco, Smith si addormenta. Aidek progetta e sogna e non riesce a prender sonno, troppo stanco per dormire, troppo affamato, arrabbiato, eccitato e spaventato per dormire. Gli sembra che solo un ostacolo lo separi da un autunno e un inverno nella terra selvaggia del Maze, laddove può finalmente perdersi, dimenticare se stesso per sempre, divenire un puro predatore dedito a nient'altro che alla sopravvivenza, a nient'altro che al puro e intenso esercizio della caccia. Quel mondo ultimo, pensa, o piuttosto sogna, il mondo finale di carne, sangue, fuoco, acqua, roccia, legno, vento, cielo, notte, freddo, alba, calore, vita. Quelle parole brevi, secche e irriducibili che rappresentano quasi tutto ciò che egli pensa di aver perduto o non hai veramente avuto. E la solitudine? La solitudine. È tutto qui ciò di cui devi aver paura. Ma rimane l'ostacolo, il vero ostacolo, l'accampamento nemico di fianco al nascondiglio delle sue scorte a Lizard Rock. Un bagliore di luce improvvisa penetra nei suoi occhi serrati, suspense. Poi arriva lo schianto selvaggio del tuono, un ruggito che sembra squarciare il ventre del cielo. Un altro lampo di luce bianco-azzurra scortica la parete del canyon. Svegliato di soprassalto, Aidak resta in attesa del boato, contando i secondi. 3, 2, 1, bobo! Era vicino. 2 secondi, circa 700 metri. Adesso scende una pioggia fitta che brilla come una tenda di perline davanti al riparo sotto la sporgenza. Si volta a guardare Smith con l'idea di parlargli, ma si trattiene. Il vecchio Seldon Sin è sdraiato su un fianco, dorme profondamente a dispetto dei tuoni. Per lui un suono familiare, forse dolce, la testa cullata dal braccio, un sorriso sul viso ordinario. Il figlio di puttana sta sognando. Un buon sogno, tanto per cambiare. In quel momento appare così vulnerabile, così indifeso e felice e quasi umano che Aidak non può disturbarlo. E pensa, perché svegliarlo? Dovremmo comunque separarci e Aidak odia gli addii. Si toglie gli scarponi, rivolta i suoi calzini sudici e logori, carezzando i punti caldi dei suoi piedi. Nessun cambio di calze, nessuna polvere per i piedi, nessun bagno caldo. Quei piedi dovranno tenere ancora duro per qualche ora, fino a che non avrà scoperchiato quel nascondiglio. Si rimette calzini e scarponi, un altro lampo, un'altra rullata di tuono che si precipita giù per i dirupi. Aidak trova l'effetto di quel momento stimolante, corroborante. La pioggia adesso scende con ancora maggiore vigore, come una cascata, visibilità inferiore ai 30 metri, buono, ottimo, esattamente quello che speravo. Aidak allaccia la cartucciera e la fondina con la 357 Magnum, si mette a tracolla il fucile e la corda sulle spalle, raccoglie una delle due borracce rimaste vuote ed esce. Fuori la pioggia picchia sulla sua testa e sulle sue spalle, sgoccia dalla visiera del cappellino dalla punta del suo naso mentre si forza al trotto su per la collina. Nella luce grigia spessa, incendiata a intervalli regolari dai guizzi di spada incandescenti, i fins luccicano come vecchi vasi di peltro, pareti di 100 metri di argento bagnato che incombono nella foschia rigate dall'acqua. In pochi minuti emerge dalla gola e si ferma per guardare un mondo molto più piccolo di prima, con forme arcane di pietra che si innalzano attraverso un sipario di pioggia, le pareti del plateau perdute oltre l'oscurità, la stessa Lizard Rock scomparsa alla vista. Ma lui conosce la strada e, calcandosi in testa il cappellino, avanza nella tempesta. The morning was quiet, the air was still, the horizon breaks to the sound of a kill. Dropping the bombs, making sure we were dead, they were filling the void, controlling our head. There's no commitment to your blind nation, there's descending and you're crying out loud. And you're crying out loud. Standing so tall, felt so proud. The tears were descending, you were crying out loud. Standing so tall, so proud. Tears were descending, crying out loud. So much confusion, dealing with inside. The feelings that I hate, the feelings that I hide. We are pulling our lives into reverse, tearing our lives, we are casting our curse. So much confusion, dealing with inside. These feelings of hatred, the feelings that I hide. We were pulling our lives into reverse, we were tearing our lives, casting a curse. The feelings that I hide, we were pulling our lives into reverse, we were tearing our lives, casting a curse. Questi erano All Gone Dead con il brano Within But No Before, dopo la prima lettura per oggi di I Sabotatori di Edward Ebbey. Ora si passa alla controinformazione con due notizie, una dall'Italia e l'altra dalla Grecia. Quella dall'Italia riguarda i due compagni Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci, che sono stati condannati proprio qualche giorno fa. Allora, Roma, 18 luglio 2014, i compagni anarchici Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci sono stati condannati in primo grado in rito abbreviato GUP Simonetta D'Alessandro rispettivamente a 6 anni e a 3 anni e 8 mesi per una serie di sabotaggi ed attacchi ai danni di Leni, Enel e banche nella zona dei Castelli Romani tra il 2010 e il 2013. È stato riconosciuto il reato associativo con finalità di terrorismo internazionale. Gianluca ha rivendicato individualmente una parte degli attacchi a firma FAI. Nel corso del processo ha rifiutato la difesa. Entrambi si sono rifiutati di partecipare al processo in videoconferenza. Poi sotto l'articolo che trovate sul sito di Radiazione ci sono anche gli indirizzi dei due compagni per scrivergli, indirizzi che poi trovate anche sui contatti per i compagni detenuti, c'è una categoria apposta. L'altra notizia riguarda la Grecia, nello specifico il compagno Nikos Mazziotis. Leggiamo la notizia: sabato mattina 19 luglio 2014 una persona, presumibilmente un magistrato o uno sbirro, è entrata nella stanza dell'ospedale di Evangelismos, dove Nikos Mazziotis è ricoverato dal 16 luglio dopo lo scontro armato con la polizia a Monastiraki. Quando a Nikos è stato chiesto quale fosse il suo nome, lui non ha risposto. Quando gli ha chiesto quale fosse la sua professione, ha risposto rivoluzionario. Ha rifiutato di dire altro. Il compagno è stato dimesso dall'ospedale in presenza dei suoi avvocati. Nello stesso pomeriggio è stato portato al tribunale di Atene, dove sono stati eseguiti mandati contro di lui. È stato poi trasferito all'ospedale del carcere di Korydallos. Solidarietà con i membri di lotta rivoluzionaria Kostas Lurnas, Nikos Mazziotis e Polarupa. Onore sempre all'Ambros Fundas, che ha dato la sua vita nella lotta. E poi c'è stata anche un'azione, ricordo che subito dopo l'arresto seguito allo scontro armato con gli sbirri, in cui è rimasto ferito Nikos, praticamente subito i compagni ad Atene, un po' in tutta la Grecia, si sono fatti sentire con manifestazioni e azioni di tutti i generi. Una di queste ad Atene, nelle prime ore di domenica 20 luglio: abbiamo attaccato i bastardi della squadra antisommossa MAT con bottiglie Molotov presso la sede del PASOK, partito socialista al governo della Grecia, situato in via Charleroi Tricopi, in una piazza vicino alla piazza Xarchia, come un atto minimo di solidarietà con il guerrigliero urbano Nikos Mazziotis. Gli stati sono gli unici terroristi. Solidarietà con i guerriglieri urbani, forza e solidarietà ai combattenti anarchici Nikos Mazziotis e Polarupa, che ha una taglia sulla sua testa. E queste erano le prime due notizie di controinformazione, un po' brutte. Normalmente si inizia con qualche notizia più bella, la diretta, però le notizie di questi ultimi giorni sono queste e purtroppo le dobbiamo dare. Allora, ora ci ascoltiamo un brano. Lui è PKT, il compagno napoletano messicano che a breve verrà anche da queste parti, con il brano O Tiempo de Peggio, il tempo dei peggiori, come si dice, dei peggiori. E poi dopo ripartiamo con un nuovo capitolo di I Sabotatori di Edward Ebey. Mi su carne ripeggio, a volte già mira, prima rire e poi voltraggio, sincero con mosaggio non cazzeggio, ma fermo stesso posto mo vosteggio, ma sento con mano sta già a bordo, che l'hanno dirottata nave rindo porta, non trovo ormeggio, ma perdo, come un nerd con internet, e regolo su troppe e mi stanno stretti. Pazzi fanno un pazzi, rire fanno chiagnere, trovo modo di sopravvivere, mi esasticandere, senza vivere, senza vivere, pensando a un futuro più fattibile, più vivibile. Sclera e marrovoto contro l'impera, forse ci metto assai ma mi faccio a pera, non va molto spettacoli a finzione. E tutte strunzate, la radio e la televisione, autonomia, autogestione. Chi si cammina, chi lo che si organizzano, so chi lo che stima. Chi lo che hanno imparato a far meno, indossato regolure la bandiera. Che l'hanno propinata, solo noi facciamo meglio in coppa. Che son già sta dubbia, senza chiedere permesso. Scimma capa sotto la sabbia contro i babbo. Convogliamo rabbia, contro chi pumane. S'atteggia con ma star. Chi si o tempere peggio, chi si o tempere peggio. Ma c'è sta poca fama, sbagliata candeggia. Pacienza. L'amma appenere, l'amma stenere, con mo limone fracciata, l'amma spremere. Chi si odia in peggio, chi si odia in peggio. Ma c'è sta poca fama, sbagliata candeggia. Pacienza, l'amma appenere, l'amma stenere, con mo limone fracciata, l'amma spremere. Faccio gira attorno a boes, torno punto di partenza. Vota ma de prima mano, non è tempo perso. Vota frittata sotto in coppa che le sotto si è bruciata. Chi ci stava prima a noi c'è rovinata. Cos' ogni americana, any way of life. Sullo si tiene sordo, si non riesta a stai. I pod, iPhone, I say hi hi hi. Si chissà se traguarda, no, non arrivamo mai. Guarda annanza, guarda il reto, pure resta caddo. Sono vim, non presento scuro come a catacomba. Chi spenne sordo, chi vota bomba. Chi si mette in uniforme, spera cagno munna. Ne rispetta, a si buffoni in doppio petto. Che si mette una cravatta e si circonda nei balletti. Ando parla, mente, mente, ne tempo perdono. Se mangia nei vicino come amantide, avide, rancide. Sono zipata, senza se via scuorne vivere come vivono. O spendono, spannano, spennano. Se fanno rossere privilegi catenano. Ma tranquilla, ad avvenire un momento. Una bomba sotto culo è nata sotto parlamento. Fanno faccia verde, se spaventano. Perché ha gente organizzata una mandena. Chi si ottiembere peggio, chi si ottiembere peggio. Ma c'è sta poca fame, sbagliata candeggio. Pacienza, l'amma penner, l'amma stenner. Come limone facile, l'amma spremere. Chi si ottiembere peggio, chi si ottiembere peggio. Ma c'è sta poca fame, sbagliata candeggio. Pacienza, l'amma penner, l'amma stenner. Come limone facile, sa da spremere. U tempere peggiore, u tempere peggio, ma hanno sbagliato campeggio. Smith non è sorpreso di svegliarsi e scoprire che il suo amico se n'è andato. Non è sorpreso, ma un po' è addolorato, perché avrebbe voluto potergli dire vai in pace, o addio, non per sempre, o ciao, semplice ma sincero, vecchio mio, insomma, alla prossima, magari lungo il fiume o giù in Arizona per il glorioso finale della campagna, della rottura, la rimozione e l'obliterazione di quella diga della laguna del liquame nazionale di Glen Canyon che non siamo mai riusciti ad occuparcene tutti insieme. E Smith si sveglia lentamente con comodo perché adesso non c'è nessuna fretta ora che Aidax se n'è andato. La pioggia cade monotona, oltre la sporgenza rigagnoli d'acqua filtrano nella caverna scivolando sotto la sua spalla. È stata l'acqua, non la pioggia o i lampi, che alla fine lo ha svegliato. Spostandosi a gattone alla ricerca di un terreno più asciutto, ha notato l'assenza di Aidak e gli ultimi oggetti che gli appartenevano e ha realizzato senza sorpresa, ma con un certo senso di privazione, che lui smette dal suo punto di vista. È l'ultimo rimasto. Beh, come Aidak potrebbe trarre il massimo vantaggio dalla pioggia, potrebbe aggirare le squadre di ricerca e soccorso, affrontare la pista per fuoristrada fino alla Golden Stairs, arrampicarsi su per il Flint Trail e poi ancora più su verso Land's End, Flint Cove, Flint Flat, Flint Spring, e da lì proseguire come in una facile escursione di una quindicina di chilometri in piano attraverso i boschi per Francis Spring e un altro nascondiglio per i viveri. Tutto ciò di cui ha bisogno ora è il cibo. Un po' di manzo, pancetta e fagioli, qualche biscotto, un po' di formaggio e sarebbe pronto per la marcia di 100 km fino alla casa sul Grand River. Borbottando tra sé e sé, Smith esce dal buco nella roccia e solleva la faccia dalla pioggia sublime, la dolce pioggia fredda. Grazie mille, tu lassù, se davvero ci sei, mette le mani a coppa sotto il canale dell'acqua sulla punta della sporgenza e beve. Buona, Dio cane, buona, ma anche piuttosto stimolante per l'appetito. Rinfrescato ma affamato, riempie la borraccia e si avvia su per il giunto di roccia erosa tra i torreggianti ferns, come ha fatto Aidak. Ma all'uscita, laddove Aidak ha tirato dritto verso Lizard Rock, Smith taglia a sinistra verso occidente e meridione, seguendo il lungo contorno di una terrazza intorno alla testa del canyon secondario più giù. Ha solo una vaga idea di che ora del giorno sia, perché non è visibile alcuna traccia del sole, ma sente che è mezzogiorno passato. I nervi, i muscoli gli dicono che ha dormito per ore. La pioggia battente insiste. Visibilità 200 metri, smette attraverso un deserto di roccia rossa, sabbia rossa. Cespugli spoglie di rose di montagna, ginepri, yucca, salvia, coleogine e chamisa. Tutte ben sparpagliate, ogni pianta separata da quella più vicina da un buon 3 metri di roccia e sabbia incontrastate. Qui non c'è nessuna possibilità di nascondersi per un essere umano, eccetto sporgenze, gole, pinne e abissi rocciosi che ora ha alla sua sinistra. Non cerca nemmeno di nascondere le tracce del suo passaggio. Se la via più diretta taglia una distesa sabbiosa, Smith la prende. Sa che presto sarà di nuovo sulla roccia solida, sul sentiero a gradini e attraverso il passo verso Flint Trail. Sa che la sua andatura spedita lo porterà presto alla pista per fuoristrada che lui taglia e segue in parallelo per un po', fino a che non si trova bloccato tra la testa di un altro canyon senza uscita e la parete del plateau. Qui non c'è scelta. Smith scende a grandi falcate sulla pista, lasciando nella sabbia e nell'argilla bagnata le chiare impronte dei suoi piedoni. Non c'è niente da fare, la pista segue la sua unica possibile rotta. Il percorso inaugurato da cervi e pecore della montagna 20.000 anni prima, lungo la terrazza curva per aprirsi in un terreno più ampio dove la lascia, la pista, e la fa con sollievo, sperando che la pioggia cancelli le sue tracce prima dell'arrivo della prossima pattuglia. E se così non sarà, pensa, allora pazienza. Smith si muove attraverso i profili della terra, salendo di quota, piegando verso la stretta valle della catena conosciuta come Golden Stairs. Le scale d'oro, dorate, l'unico sentiero che conduce alla sequela di terrazze dove si sta arrampicando al tavolato superiore. Regione folle, per metà perpendicolare al resto e in gran parte inaccessibile persino a un uomo a piedi, semplicemente perché composta soprattutto di pareti verticali. È il territorio di Seldon C. Smith ed è l'unico nel quale lui si sente a proprio agio, sicuro, a casa. Autentico patriota autoctono, Smith promette fedeltà solo alla terra che conosce, non a quella gonfia protuberanza di proprietà immobiliari, industrie e popolazioni brulicanti di inglesi delle isole, di europei importati, africani deportati, conosciuti collettivamente come gli Stati Uniti. La sua lealtà svanisce gradualmente verso i confini del Colorado Plateau. Vede i fari sfilare sotto di lui attraverso la pioggia. 1, 2, 3 veicoli come un convoglio militare che procedono lentamente sulla roccia bagnata, mordendo un lungo tratto fangoso e scomparendo alla vista dietro la curva successiva della terrazza. Sente il rimbombo di una frana. Alcune di quelle macchine non usciranno vive di lì, pensa, lasciando il riparo del suo ginepro e riprendendo la marcia. Anche Dio, cane, fa rotolare le rocce e dovrebbe farne rotolare di più. Trova il sentiero e si trascina su, richiamando tutte le sue energie, salendo oltre 100 metri in stretti tornanti fino alla terrazza seguente. Qui il sentiero si allunga piano verso nord-est, seguendo il profilo, fino a che non si raggiunge un'altra apertura nella parete. Altri 100 metri di ascensione e 1,5 km di marcia portano Smith dentro al passo. Sotto c'è l'estremità superiore di un drenaggio conosciuto come Etherite Basin. E ha già conosciuto metà della strada per arrivare al Flint Trail. Più in là, appena visibile attraverso la pioggia, c'è il Bagpipe Butte. Sopra e oltre quello le Orange Cliff, il bordo dell'alto plateau, 300 metri ancora più su e lontano, ancora 10 chilometri. Il sole risplende infilandosi in un buco tra le nuvole. Smith riposa per un po', si appisola, poi sente dei colpi di arma da fuoco distanti, remoti. Ma al confine del regno della sua consapevolezza guarda indietro verso Lizard Rock in Maze. Forse stava sognando quel suono, sentendo cose. La pioggia ha smesso, altri colpi di armi, un fuoco di sbarramento. Sono cose che senti tu, dice a se stesso. Il ragazzo, Aidak, Non può essere così stupido, nemmeno George, nemmeno lui potrebbe essere così stupido da ingaggiare un conflitto a fuoco con tutti loro, chiunque siano adesso polizia dello Stato, probabilmente tutti i dannati dipartimenti degli sceriffi delle contee di Wayne, Emery, Glen e San Juan, per non citare quel che è rimasto del vescovo e della sua squadra di coltivatori di fagioli e rivenditori di auto usate. No, no, lui non può essere. A quest'ora deve essere nel mezzo a scoiare un cervo. Erano i suoi spari quelli che ho sentito, anche se a dire il vero i rumori erano quelli di uno scontro armato piuttosto intenso. Troppo tardi per tornare indietro, Aidak voleva starsene da solo e ora lo è. Due elicotteri frullano non distanti, diretti al mezzo. Smith si rialza e riprende il cammino nel pomeriggio che si chiude. Le nuvole cariche di pioggia si aprono spostandosi ad oriente, lame di luce solare illuminano la scena con enormi proiettori dorati attraverso il cielo rinnovato. Lui si trascina per gli ultimi metri che mancano a raggiungere la sommità del Flint Trail. Affamato, zuppo, esausto, i piedi segnati dalle vesciche, infreddolito. Seldon cammina goffamente passando di fianco ai turisti ammassati sul belvedere del Park Service. Il Maids Overlook. Quattro donne anziane che si passano il binocolo di mano in mano fissano Smith con paura e sospetto. Poi tornano a studiare qualcosa di affascinante che si sta verificando verso il Maids. Osservano un'arena panoramica di 10 anelli, profonda e larga chilometri. Un velivolo disegna cerchi laggiù. Fuoco rosso, colonne contorte di fumo e nebbia galleggiano fuori dai canyon. Una cascata bronzea di fango liquido si rovescia fragoroso dal bordo di un dirupo di 300 metri, mentre lancia in movimento dei riflettori divini, ma non troppo. Ravvivano quel punto, solo quello, e tutto il resto rimane velato dalle nubi. Smith ignora le turiste, preoccupato unicamente di allontanarsi da quel luogo pubblico e inoltrarsi il prima possibile nel bosco di conifere. Ancora 15 chilometri lo separano dal Francis Spring e dal cibo. La scorciatoia lo porta a passare vicino alle macchine parcheggiate delle signore e un tavolino da picnic su cui hanno lasciato una grande borsa termica Coleman contenente... che cosa? Pasta per dentiere? Preparato H per le emorroidi? Cibo? Forse... Le ginocchia deboli di Smith quasi collassano. Sente la presenza di carne, esita. Nei pressi del tavolino apre la borsa termica, non può fare a meno. Prende il pacchetto più accessibile, controlla, guarda indietro. Due signore lo guardano a bocca spalancata, allibite. I loro occhiali riflettono per un istante i raggi del sole, mandando riflessi nei suoi occhi. Si fruga nella tasca. Una moneta sudicia da un quarto di dollaro non basterebbe, ma è tutto quello che ha. Molla il quartino sul tavolo e prende su due pacchetti freddi avvolti in carta bianca da macelleria macchiata di sangue. Una donna starnazza. «Metti giù quella roba, ladro schifoso!» «Lo spiacente, signore!» mormora Smith, si stringe a petto i due pacchetti e si dilegua nel bosco. Ne perde uno, continua a correre avanzando con passo pesante attraverso la fanghiglia, aghi di pino e pozzanghere fino a un posticino assolato. Nei pressi di un masso, tende l'orecchio, nessun segno di inseguimento. Ah, buon Dio, cane, se sono stanco, sì, sono stanco. Si lascia andare a terra, apre il pacchetto. Un chilo di hamburger crudo senza grasso, ricco di proteine. Lo addenta come un cane affamato, mangiandolo così com'è, divorandolo tutto. Mentre deglutisce, sente una macchina sfilare sulla strada. Nessun altro suono tranne lo scuttio di uno scoiattolo, il chiacchiericcio di ghiandaie azzurre tra i pini, il sole delle sere di primavera. Pace. Sfinimento. Black Eyes con il brano Someone Has His Fingers Broken. Ora ripassiamo alla controinformazione e si va in Cile, a Santiago più precisamente, dove ci sono stati dei presidi e volantinaggi fuori al carcere di San Miguel contro le molestie. Allora, leggiamo il testo che dicevo tramite mail dai compagni di Pubblicazione Refrattario. Propaganda e solidarietà fuori dal carcere per la compagna Tamara Sol. Per tutta la settimana, tra il 7 e l'11 luglio, diverse individualità informalmente coordinate abbiamo dato un piccolo contributo necessario contro le molestie dei carcerieri e l'istituzione che li difende, facendo propaganda fuori e nei dintorni del centro di sterminio del carcere di San Miguel. Questo gesto di propaganda avviene come risposta diretta alle molestie contro la compagna Tamara Sol e la sua famiglia da parte dei carcerieri di questa prigione. Non dimentichiamo che questi sbirri sono gli stessi responsabili dell'incendio dove sono stati assassinati 81 prigionieri dallo Stato l'8 dicembre 2010 in uno dei più grandi massacri nelle prigioni del Cile. È importante chiarire sia alle guardie che a tutte le varie forme di compagni antiautoritari e anarchici che la dignità di un prigioniere di guerra si difende millimetro per millimetro, sia da fuori le mura del carcere, sia dall'interno delle sue viscere quando ci tocca camminare lungo i corridoi della prigione. Questa costruzione di offensiva e resistenza la vogliamo sollevare tra tutti e dobbiamo farci carico di questa responsabilità. Le molestie ai prigionieri rivoluzionari come alle loro famiglie, le punizioni, le incursioni, i trasferimenti, le percosse e fomentare litigi tra detenuti sono pratiche comuni del sistema carcerario. Sta a noi stessi arrestare l'avanzamento dell'ingranaggio carcerario. Carcerieri, giù le mani dai nostri compagni e loro parenti, presos en guerra alla calle. Individualità informalmente coordinate. E questa era la notizia che ci arrivava da Santiago del Cile, l'ho detto tramite compagni del sito di Pubblicazione Refrattario tramite mail. Ora ci ascoltiamo un brano di Lights of Euphoria, Flight to Target, e poi dopo si ritorna qui e si continua la lettura di I Sabotatori di Edward Abbey. Thank you. riempita la pancia, Smith si lascia andare contro la roccia riscaldata dal sole e chiude le palpebre appesantite. Un coro di uccelli serali celebra la fine del temporale. Petirossi, ghiandaie, tordi, mimi e tozzostomi cantano tra gli alberi nell'area delle terre alte 2000 metri sopra il livello del mare. Il sole affonda negli arcipelaghi di nubi, nelle catene frastagliate del cielo. Smith si addormenta. I suoi sogni sono strani, sono agitati, sogni, quelle imitazioni impari ed evasive della realtà. Il povero Smith dorme, o pensa di dormire. Adesso, qualche figlio di puttana gli sta tirando dei calci a un piede. Sveglia, signore! Si tiri su! Sveglia! Smith apre un occhio. Pantaloni verdi da guardia forestale e scarpe lucide. Apre l'altro occhio. Un giovane dalle guance rose con un cappello da smoky beer lo sta fissando. Nella mano regge quello che sembra un pollo spennato. Un altro giovane lì vicino, armato di bomboletta lacrimogena, mace e pistola, picchia come un manganello contro un albero, studiando il giovane con aria grave. Entrambi indossano l'uniforme e il distintivo dei Ranger del National Park Service. In piedi, Smith geme e si solleva per metà, appoggiandosi con la schiena contro il masso. Si sente orrendamente e la percezione del disastro che si fa largo non lo aiuta. Si sfrega gli occhi, si schiude le orecchie con i mignoli e guarda di nuovo. Beh, restano pochi dubbi. È un pollo spennato. Il giovane che lo dondola davanti a lui ha un'aria familiare. In piedi! Smith si piega di lato per raccogliere il suo vecchio cappello floscio schiacciato e se lo calca in testa, ma l'irritazione cresce, non si alza. Andate via, dice, sto cercando di dormire. Ci è stata presentata una querela nei suoi confronti, signore. Una querela? Che querela? Le signore ci hanno detto che ha rubato il loro hamburger e il loro pollo. Ma quale pollo? Questo! Smith ruota la tesa del cappello e studia il volatile nudo. Non l'ho mai visto prima. L'abbiamo trovato sulla sua pista, le è caduto mentre scappava. Sollevando lo sguardo dal pollo, Smith legge la targhetta con il nome del ranger. Edwin P. Abbott Jr. Ora ricordo. Scusi, chiede. Ma tu non eri giù al Navajo National Park dell'Arizona giusto un paio di mesi fa? Mi hanno trasferito, dicono le signore, che l'hamburger pesava un chilo. Beh, questo è vero, allora lo ammette. Beh, sì, e non lo nega. No, direi di no. I ranger si scambiano un'occhiata vincente e soddisfatta e annuiscono, riportano i loro sguardi seri e compresi nella parte su Smith. Il ranger Abbott prende la parola. E così, confessa. No, stavo morendo di fame, spiega Smith. Io ho anche lasciato alle signore un po' di soldi, o almeno quella era la mia intenzione. Adesso voi, ragazze, avete lavori più importanti da fare e io non voglio rubarvi altro tempo. Andatevene e lasciatemi dormire. Lei è in stato di arresto, signore, deve venire con noi. Per cosa? Furto e campeggio fuori dall'area riservata a tale scopo. Ma questo è il mio territorio, questo è un parco nazionale, ma io vivo qui, sono un cittadino dello Utah. Sì, questo lo può spiegare bene al magistrato. Smith sbuffa e si gira chiudendo gli occhi. D'accordo, però facciamo così, lasciatemi dormire ancora un po', dai ragazzi, sono davvero stanco, solo un po', mormora e la sua voce si spegne. Si alzi, andate al diavolo, sussurra sognante. Si alzi! Smith si schianta su un fianco rilassandosi nel tipico amichevole angolo nella roccia. I ranger guardano il dormiente Smith, poi si scambiano un'altra occhiata. Beh, perché non spruzziamo un po' di mace al bastardo? Lacrimogeno, dice il secondo ranger, così forse si sveglierà. No, aspetta un minuto. Il ranger Abbott prende un paio di nuove manette in plastica, usa e getta alla sua cintura. Prima lo ammanettiamo, non abbiamo bisogno del mace. Con rapidità e abilità, perché questa È una delle cose su cui è stato ben addestrato la Park Service Horace P. Albright Ranger Training Academy di South Rim. E mettere due fascette intorno ai polsi di Smith le stringe. Smith si agita debolmente, bufonchiando nel sonno, ma non oppone resistenza, non si sveglia, non si preoccupa. Il Ranger Abbott e il suo aiutante tirano in piedi il loro prigioniero e lo trasportano di peso. Le gambe inerti che trascinano nel fondo di terra foglie e rami in decomposizione di nuovo attraverso il bosco fino alla strada e al furgone di pattugliamento. E dove lo sbatteranno adesso? Lo piazzano tra loro al centro del sedile unico del pick-up. Sorridendo nel sogno, russando leggermente, Smith si lascia andare, appoggiandosi all'uomo sulla sua destra. «È proprio un bastardo difficile», dice lei. Dice l'assistente Ranger. «Ma non ti preoccupare, e che ci facciamo con quel pollo?» «Beh, lo molliamo nel bosco.» «Ma non ci serve, quella è una prova.» Il Ranger Abbott sorride al suo collega. «Lascia perdere.» «Lascialo perdere, quel pollo è il vero pollo, ce l'abbiamo qui, non hai ancora capito chi è quest'uomo.» E l'altro, spostandosi nervosamente sotto il peso morto di Smith, dopo un momento dice: «Beh sì, me lo stavo domandando, mi ero fatto un'idea, è per questo che pensavo subito di usare il Mace con questo bastardo. Credi che abbiamo messo le mani su Rudolph il Rosso?» «No, abbiamo preso Rudolph il Rosso.» Il Ranger Abbott avvia il motore, afferra il microfono e trasmette la notizia della cattura al suo capo. «Congratulazioni, Abbott!» gli risponde il capo dei Ranger attraverso il fittio gracidio elettrostatico. «Ma non hai preso Rudolph il Rosso? Rudolph il Rosso lo hanno ucciso un'ora fa. Tu hai preso un altro, portalo qui comunque e non dimenticate di redigere il rapporto.» «Sì, signore!» Merda! Conclude l'assistente. Stanno per concludere la manovra di inversione quando una macchina di turisti li affianca. La coppia all'interno pare in ansia. «Oh, Ranger!» li chiama la moglie. «Dica, signora, please, madam!» risponde Abbott, il Ranger. «Ci potrebbe indicare, per favore?» E la donna sorride con leggero imbarazzo. «Dove possiamo trovare dei servizi?» «Certo, signora, i servizi sono di fianco al parcheggio al Maid's Overlook oppure anche al Lens End Viewpoint. Non può sbagliare.» «Oh, grazie mille, ma si figuri.» I visitatori ripartono con cautela. Il Ranger Abbott impenna i giri del motore, si esibisce in un testacoda controllato con il retro che scodinzola sull'asfalto. Schizzi di fango si stampano sui pini che bordeggiano la carreggiata. «Mi piace questo lavoro», dice rombando verso il quartier generale del distretto. «Oh sì, anche a me», dice l'assistente Ranger. «Hai un sacco di occasioni in effetti per renderti utile alla gente.» 1000 metri quadrati di natura selvaggia, sogna Seldom nel suo sogno, e non un vaso dove pisciare, servizi igienici. «George Idak, vecchio mio, adesso abbiamo certamente bisogno di te. Rudolph il Rosso, Rudolph il Nero è morto.» E questi erano 16 Volt con il brano The Dreams That Rot in Your Heart. Ora si ripassa alla controinformazione con ancora una notizia. Sono tutte notizie di merda, cioè, per quanto riguarda la controinformazione. Ancora una notizia da Atene, dalla Grecia, dove ci sono gli aggiornamenti sul processo per il caso della rapina a Velveto. Allora, il 4 luglio è continuata la corte del terrore di Korydallos per quanto riguarda la rapina in Velveto, con la lettura di documenti di accusa, una procedura che ha avuto inizio già nell'udienza precedente. Due udienze precedenti in cui i testimoni interrogati sono stati poliziotti del gruppo Diaz e i poliziotti che erano nell'auto della polizia che arrestò i compagni Mihailidis e Romanos e Burzugos. Tutti questi testimoni, per coprire le torture che sono avvenute nella stazione della polizia a Veria, hanno detto che nel tentare di immobilizzare i compagni, questi hanno reagito scontrandosi con loro e nella colluttazione i compagni sono rimasti feriti. Gli avvocati della difesa hanno dimostrato che le loro affermazioni erano false e senza una base, perché se i compagni avessero voluto resistere cercando di evitare l'arresto, avrebbero potuto usare le armi e non le mani. Il presidente di questa corte del terrore, Potamianos, ha tentato di iniziare l'udienza con la lettura di tre relazioni del laboratorio competente della direzione d'inchiesta giudiziaria riguardo all'esame del DNA illegalmente preso ai compagni accusati. L'avvocato di difesa Paparosu ha chiesto che i rapporti non fossero letti perché il suo assistito Burzukos è nell'ospedale della prigione e le relazioni sono incomplete perché non sono correlate di tutti i documenti che descrivono la procedura, e per questo motivo il giudice non dovrebbe affidarsi su queste relazioni. Ha anche chiesto che tutti i documenti fossero letti e che le nuove disposizioni contenute nella nuova normativa carceraria non sono state ancora applicate. Anche l'avvocato della difesa Fitrakis ha chiesto che tutti i documenti dovevano essere letti nell'ordine delle accuse. La stessa cosa ha chiesto anche dal compagno Dalios. Inizia così la lettura dei documenti, con il primo che è stato un rapporto di una perquisizione nella casa di una persona che nulla a che fare con il caso sotto processo. Questa cosa ha scatenato un diverbio tra gli avvocati e il giudice e il magistrato, il presidente della corte del terrore. Hanno chiarito che il rapporto non riguarda la casa dove vivevano i loro assistiti, ma un'altra casa di una persona che ha nulla a che fare con il caso e che è stato accusato solo per creare un clima politico. Il compagno Politis, commentando sulla questione, ha detto che poiché l'antiterrorismo ha trasmesso dei documenti, questi devono essere letti tutti. Dopodiché è stato letto un rapporto sulla ricerca del compagno Burzukos nella casa della sua famiglia. L'avvocato ha sottolineato che l'antiterrorismo sapeva che il compagno non viveva là, ma ha effettuato la perquisizione per altri scopi. Un altro rapporto che è stato letto era su una borsa che è stata cercata e che viene trovata nella zona, ma era ovvio che i compagni non l'avevano buttata via. In un altro rapporto è stato riportato che la polizia ha saltato il Tellar, che non si capisce ancora cos'è, forse è un errore di scrittura, di battitura dei compagni greci, che ha utilizzato il timer per perdere tempo far perdere tempo ai rapinatori. Molto probabilmente sarà il banchiere, non lo so cosa possa essere il Tellar. Paparuso ha sottolineato che la mossa della polizia di lodare Tellar è ridicola, perché l'utilizzo del timer durante la rapina mette in pericolo la vita dei cittadini. Tale mossa spiega l'atteggiamento della polizia nel dare priorità alla custodia del denaro delle banche e non alla sicurezza dei cittadini. Questa era la notizia e gli aggiornamenti per quanto riguarda il processo sulla rapina a Velveto. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Oh Job con il brano Dead Market, e poi dopo si ritorna qui con due letture di seguito di I Sabotatori di Edward Ebbey, e poi ancora comunque controinformazione e ci atteneremo. la caccia si conclude. Beh, dipende tutto dal tuo punto di vista, pensava George Aydak mentre procedeva sotto la radio verso l'ultima postazione osservata dalla Lizard Rock. Non era la fine, non era la fine, nessuno ci ha disturbato, nessuno ci ha disturbato, ma se la osservi dal punto di vista del Condor, la pioggia è una menata. Visibilità nulla, niente cibo, ma dal mio punto di vista, dal punto di vista della guerriglia, aveva ancora da percorrere solo 2 chilometri, girando intorno alle teste di una ramificazione di gole nella roccia levigata, scuri, piccoli canyon più profondi che larghi, che ora cominciavano tutti a riempirsi di rivoli impetuosi d'acqua limacciosa rosso-marrone, un liquido spugnoso e schiumoso di liquido gorgogliante, troppo denso da bere, troppo brodoso per camminarci sopra. Aydak si fermò dietro a un cespuglio, forse di rose di montagna, fradicio d'acqua, per lasciare il passo a un paio di jeep, i loro fari ambrati che bruciano attraverso l'acquazzone. Recuperò il fiato e le forze e riprese la marcia lungo la fangosa pista per fuoristrada e tenendosi alla larga dall'accampamento dell'elicottero. Si avvicinò di fianco dove trovava il nascondiglio delle cibarie. Quando attraverso la pioggia riuscì a vedere la tenda, i veicoli e l'elicottero, si piegò sulle ginocchia e i gomiti e strisciò per altri 50 metri e si fermò, sbirciando tra i fitti fili di pioggia da dietro un cumulo di petrisco staccatosi dai diruppi della Lizard Rock. Studia la scena. 2 uomini armati con il poncho sono fermi di fianco a un fuoco di guardia di una caffettiera. Un altro mette la testa fuori dalla tenda militare, verde oliva, e il grande elicottero grigio. Dipartimento di pubblica sicurezza dello stato dello Utah riposa sui suoi pattini inutilizzabili con la pioggia. Dipartimento di pubblica sicurezza. E questo è il nuovo e più dolce nome della polizia di stato, che sono un po' troppo reggimentale. È pronto il caffè? Quasi. Bene, quando è pronto portalo. La testa si ritira nella tenda. Aydak guarda a destra. 2 uomini con i fucili a pallini sono seduti a fumare dentro uno dei furgoni a 4 ruote motrici del DPS. Dipartimento Pubblica Sicurezza. Gli altri veicoli sono vuoti. Lui lancia lo sguardo lungo la scarpata della Lizard Rock verso un guazzabuglio di detriti, vicino a quel ginepro con la ramificazione rada, giusto là dove avevano nascosto le scorte, cibo e acqua, kit di pronto soccorso, calzini puliti e munizioni, 2 scatole piene. Le aveva impacchettate lui stesso, non volendo correre alcun rischio. Che fare? La solita vecchia domanda che adesso non era il vecchio Lenin a porsela, ma il giovane George Aydak. Quel nascondiglio così vicino e prezioso rimaneva al di là della sua portata, sepolto a soli 100 metri dalle tende e dal fuoco del cambio. Che fare? Qui c'è bisogno di un diversivo. La pioggia martellava sulla sua testa, paziente, riversandosi come una cascata dalla visiera del suo cappellino. Lui poteva aspettare, naturalmente, aspettare che loro facessero qualcosa, se ne andassero, lo lasciassero finalmente in pace. Ma ovviamente loro non si sarebbero mossi con quell'elicottero fino a che la pioggia non fosse diminuita, né lo avrebbero lasciato lì incustodito. In quel modo si perdono troppi elicotteri. Potrebbe arretrare Aydak, uscire sul lato opposto, sparare un paio di colpi, attirare l'attenzione e ritornare al punto di partenza e attaccare chiunque fosse rimasto sul posto. Non aveva letto von Clausewitz. Indietreggia, strisciando sullo stomaco sopra la sabbia bagnata fino a perdere di vista l'accampamento, poi risale la scarpata sotto il dirupo e trova riparo sotto una nicchia sporgente. Si siede lì tra la polvere, ossa e vecchi escrementi di coyote, e cerca di pensare al da farsi. Avrebbe dovuto far venire Smith, ma come? Avrebbe dovuto tenere il suo zaino in spalla e il luogo deputato, non avrebbe mai dovuto buttare via quello zaino, ma lo aveva fatto, ma non avrebbe dovuto, ma aveva dovuto farlo, allora sembrava la cosa giusta da fare. ma non avevano avuto una sola possibilità di tornare indietro. Non riusciva a farsene una ragione di questo, quello o tante altre cose. La fame nelle sue braccia e gambe vuote, la caverna echeggiante della sua pancia, rende tutto il resto come irreale, speculativo, relativamente trascurabile, maledettamente accademico. L'imperativo è mangiare. Si mastica le nocche, incerto. Dio pensa, un uomo può trovare davvero un po' di nutrimento, solo un poco, rosicchiandosi le dita. Si può sempre tirare avanti con una mano, se costretti, forse con un aiuto, ma non qui comunque, non qua giù. Guarda in direzione del mezzo e vede attraverso lo schermo argento della pioggia un festival di rocce, cupole, schiene d'elefante, marmitte, bacini tagliate, scavate e divise da canyon, canyon secondari, canyon laterali e altri canyon laterali, tutti serpeggianti come vermi, tutti stretti da pareti a perpendicolo e apparentemente senza fondo. Che casino, pensa. Un uomo ci si potrebbe perdere là dentro. Per il momento, al sicuro, anche se morto di fame e senza un piano, l'affamato Aidak si sfila il fucile e toglie il rotolo di corda dalla sua spalla e si mette giù a riposare per alcuni minuti. Non fa tempo ad appisolarsi che comincia a sognare, sogni rapidi, erratici e fastidiosi che lo svegliano. Träumenbuch. Dio cane, mi sa che mi sto indebolendo, pensa. Non riesco a rimanere sveglio e ritorna in uno stato di apatia. Si sveglia al suono di motori rombanti. La pioggia è rallentato, forse è questo che lo ha svegliato, la quiete seguita all'azione. Depresso e insicuro, Aidak afferra il fucile e si alza, faticando a trovare l'equilibrio. L'accampamento della polizia è nascosto dalla parte della Lizard Rock, scende con passo malfermo sul terreno friabile della scarpata, rischiando quasi di cadere, e raggiunge un vantaggioso punto di osservazione. Adesso li può vedere gli uomini, le tende, il fuoco senza fiamma, i veicoli, le pali rotante dell'elicottero. Lo stanno scaldando. Due uomini siedono nello sportello laterale della macchina, controllando le armi e fumando. Indossano la tuta mimetica grigio-verde, come cacciatori con l'arco o soldati da combattimento. Uno ha il binocolo appeso al collo, entrambi indossano caschi e, a giudicare dal rigido gonfiore delle loro uniformi, anche giubbotti antiproiettile. Alla testa, mirare alla testa. Aidak li studia con il cannocchiale di mira del suo fucile, il reticolo puntato prima su un uomo, poi sull'altro, sui loro visi. Uno ha bisogno di farsi la barba, gli occhi arrossati e l'aria stanca. L'altro ha un paio di baffi cespugliosi, il naso gocciolante, le labbra sottili, le sopracciglia folte, lo sguardo acuto e irrequieto del cacciatore. In qualunque momento potrebbe sollevare i suoi occhi da 11 decimi verso di lui, lo stronzo. E quando lo farà, lui se lo prenderà dritto nella zucca il proiettile. Aidak abbassa un filo il mirino per leggere la targhetta con il nome sul suo petto. Di questi tempi tutti hanno una targhetta di riconoscimento e ogni uomo ha un numero. Il nome è Jim Crumble. La sua mano, che impugna quello che sembra, Aidak stringe il fuoco, un Browning 3 pollici magnum calibro 12 semiautomatico. Beh, la sua mano è ferma come un morsetto, il suo numero è probabilmente scritto su quel braccialetto di identità legato intorno al polso e su quella targhetta foderata di pelle nel taschino sinistro chiuso con la lampo. Sembra un ufficiale cazzuto o un cazzuto ufficiale. Oh, e ancora di nuovo è sempre il Vietnam che salta fuori. Non manca niente qui, eccetto l'erba, il Westmoreland, le puttane e le bandiere sudiste. Con me come ultimo Vietcong nella giungla. Oppure, non sono l'ultimo, sono il primo nella giungla di silenzio e pietra. Levati dai piedi, maiale, che cosa stai aspettando? Aidak impaziente girovaga per l'accampamento con il suo occhio telescopico, il voyeur anarchico, in cerca di qualcosa a cui sparare, qualcosa da mangiare. La pioggia diminuisce, la visibilità sale a 8 km. Il pilota compare nella cabina di guida. Crumbo e il suo compagno si infilano nell'elicottero, chiudono gli sportelli e la macchina, muggendo, si solleva dal piovisco grigio-verde dell'aria. Aidak si acquatta tra le sue rocce, osservando il pilota dell'elicottero attraverso il telescopio. Una faccia pallida dietro il plexiglass metallico, casco in testa, microfono alla bocca, arcignamente stralunato nei polaroid, antiriflesso, chiarità, sole. Così conciato a poco di umano, è un uomo di metallo, è un uomo di metallo, è ancora, ancora meno di amichevole. L'elicottero si immerge nella foschia, diretto a sud verso i Finze, e scompare per sempre. Aidak torna a dedicare tutte le sue attenzioni all'accampamento. Due uomini partono a bordo di un pick-up a trazione integrale e si dirigono giù per la fangosa pista verso Candlestick Spire e le Standing Rocks. Via tutti! Studia la scena con attenzione. Rimangono due veicoli, le canadesi, tende e il fuoco fumante. All'apparenza nessun umano, gli altri forse sono impegnati in un pattugliamento a piedi. Aspetta! Comunque, anche se la fame da lupo gli urula nelle orecchie, Dio, cane, quel burro di arachidi, quella carne secca e i fagioli, ma aspetta per mezz'ora o così gli pare. Nessuno in vista e non resiste più. Portandosi appresso il fucile, Aidak discende il declivio della scarpata diretto al nascondiglio delle provviste. Laddove è possibile, evita di uscire allo scoperto, piazzandosi dietro massi come obelischi e sotto i ginepri, ma la copertura è minima. È ormai a poche centinaia di metri dal suo obiettivo, un centinaio di metri dall'accampamento, quando Gesù Cristo, un cane, esce a zompi dai teli della tenda più vicina, abbaiando come un maniaco. Sembra un cucciolo di Iredale, nero e marrone, è già un po' cresciuto, e scorgendo Aidak all'improvviso il cucciolone corre verso di lui, poi si blocca a metà strada indeciso, abbaiando e agitando nello stesso tempo il suo mozzicone di coda, facendo purtroppo il suo dovere. Aidak impreca: cane maledetto senza Dio, mentre due uomini escono dalla tenda reggendo in mano le tazze di caffè, guardando attorno. Cristo, beccato allo scoperto, Aidak reagisce d'istinto, sparando un colpo all'anca che manda in frantumi un finestrino del furgone più vicino. Gli uomini si tuffano nell'illusorio riparo della tenda, dove ci sono le loro armi e c'è anche la radio. batte in ritirata. Il cucciolone lo insegue con per un'altra trentina di metri e si ferma, sempre abbaiando e agitando la sua inutile coda. Aidak corre verso il bordo del Maze, il primo e unico rifugio che riesce a vedere o a pensare. Non c'è mai stato prima, non si preoccupa. Maledetti cuccioli, dovrebbero gettarli tutti in pasto ai coyote, pensa, mentre i suoi passi rimbombano. Evitando il bordo completamente scoperto, corre attraverso un boschetto di ginepri, giù, verso una penisola di pietra che si allunga come un indice puntato nel cuore del Maze. Il dito è lungo 3 km e la copertura scarsa. A metà della strada, dalla fine della roccia, sente di nuovo quel suono. Il rotore di un elicottero che tagliano l'aria. Guarda indietro, ma ancora non riesce a vederlo. Continua a correre anche se le costole si incrinano per il dolore. La sua gola brucia per l'aria. Più spazio, più energia, più amore, più di tutto tranne che di questo. Ma questo è, pensa sorpreso. Accelerando giù per la lucida roccia, mentre un raggio di sole dritto caduto attraverso uno squarcio tra le nuvole in movimento lo segue come l'occhio del dio cane. È andato da quella parte, lungo la spianata di roccia, oltre l'ultimo degli alberi, a sinistra del palco, sotto le gallerie dei dirupi, nel teatro, all'aria aperta del deserto. Aidak è rimasta l'unica stella dello spettacolo, il capocomico. Adesso lui è un capocomico solo ed esposto. Corre lungo la roccia rivigata verso il naso, la punta, l'estremità più lontana della penisola. Canyon perpendicolari lo chiudono su entrambi i lati, a 30 metri di distanza, profondi 100-150 metri, con pareti pulite, lisce e verticali come i fianchi, come quei fianchi di quello che Bonnie chiama il Vampire State Building. Disperato? No. Adesso non c'è più niente di cui preoccuparsi, ricorda ansimando come un maratoneta nel giro finale. Così è, l'ho fatto ora. Mi abbatteranno come un cane, non c'è modo di uscire da qui, nessun modo. Non ho più nemmeno la mia corda. Ho dimenticato la corda. E la situazione è assolutamente disperata. Non c'è più un cazzo di cui preoccuparsi. E inoltre, mi sono rimasti 6 colpi di fucile e 5... e ancora 20 per la Magnum 357. È così, Aidak, le sue ruminazioni, mentre colpi di arma da fuoco si scatenano alle sue spalle come una violentissima e frastornante eruzione. Mentre l'elicottero ritorna, mentre una decina di uomini a piedi e un'altra decina di veicoli di pattuglia equipaggiati con le radio si fermano, invertono il senso di marcia e si dirigono dalla sua parte, convergendo tutti su un esausto, affamato, solo, isolato, intrappolato e incastrato psicopatico. Tardo pomeriggio. Il sole risplende più brillante attraverso la massa scomposta di nubi temporalesche. I proiettori più naturali giocano sulla regione dei canyon, mentre Aidak, individuato dall'elicottero, barcolla impreparato verso il punto finale della roccia e traballa sul bordo, le braccia che mulinano alla ricerca dell'equilibrio. Guarda giù oltre il margine e vede in fondo ad uno strapiombo verticale di 150 metri una massa rossa semiliquida schiumosa di fango che si lancia in un torrente lungo il fondo del canyon, un flusso rapido stretto fra le pareti che sbatte contro la curva, tuonando sopra il punto di partenza, rombando verso il nascosto Green River a 130 o 140 km più in là. Massi rotolanti cozzano e sbattono in un fragore assordante sotto i flutti, tronchi galleggianti sfilano, alberi sradicati cavalcano le onde. Non deve essere peggio che saltare dentro una lingua di lava. L'elicottero si avvicina in un ampio cerchio. Aidak scivola in una fessura del bordo roccioso, un crepaccio curvo e frastagliato, largo a malapena, per accogliere il suo corpo così profondo e contorto che non riesce a vederne il fondo. Una rosa di montagna su un lato, un giovanissimo ginepro sull'altro, non c'è nulla a cui possa appoggiare i piedi. Si incunea nella spaccatura, la schiena contro una parete, le ginocchia contro l'altra, tipo discesa a camino. schiacciato tra la massa della penisola e il blocco diviso con solo occhi, braccia e fucile sopra le superfici del terreno, rimane in attesa del primo attacco. Ha paura? No, cazzo, non ha paura. Aidak è andato al di là del terrore, da solo, l'ultimo. E dopo essersela infine fatta sotto, purgato e purificato, è ora troppo stanco per avere paura, troppo sfinito per pensare di arrendersi. Il fetore immondo che sale dal di dietro dei suoi jeans, la tiepida massa molle, strutturalmente imperfetta che cola giù per la gamba destra dei suoi pantaloni, non sembra nemmeno un suo prodotto. Lui, Aidak, ha trovato un regno più semplice, centrato sulla lente oculare del suo telescopio, risolvendo tutto se stesso semplicemente nella precisione coordinata di indice e grilletto, occhio e reticolo, bocca, deviazione causata dal tempo e tempo di ricarica. La sua mente, ora pulita come il suo intestino e schiarita dal digiuno, è vigile e entusiasta. L'elicottero sopraggiunge sbatacchiando per l'uccisione. Senza pensarci come è addestrato, Aidak piazza il suo primo colpo attraverso il finestrino del pilota, mancando incidentalmente la faccia del pilota. L'elicottero vira improvvisamente, selvaggiamente, e il fuoco di sbarramento che si scatena dallo sportello dell'artigliere falcia la pietra arenaria a una rassicurante distanza di 10-20 metri dalla postazione di Aidak. Con la coda dell'uccello rivolta verso di lui, piazza il suo secondo colpo nella scatola del motore del rotore di coda. L'elicottero, più insultato che ferito, si avvia verso l'accampamento per delle piccole riparazioni e una pausa caffè per l'equipaggio. Aidak aspetta. Gli uomini a terra mantengono una distanza di sicurezza 600 metri attraverso la penisola aperta di roccia levigata e aspettano rinforzi e soprattutto aspettano un comandante di campo. Servi, notato che sembra esserci un piccolo ritardo nella procedura, Aidak trova una nicchia più sicura nel crepaccio del bordo roccioso e si sfila i pantaloni puzzolenti. Pensa di essere disposto a morire oggi, ma non a sedersi nella propria merda. Dopo averli gettati via, fucile poggiato alla roccia di fronte al suo mento, il primo pensiero è raccoglierli e gettarli insieme ai loro contenuti giù per il dirupo sotto di lui, ma poi ha un'idea migliore. E non c'è comunque nient'altro da fare in quel momento. Spezza un piccolo ramo della rosa di montagna e i suoi squisiti boccioli profumati d'arancia adesso sbocceranno. Getta via la merda dei pantaloni. E perché in quella situazione? Perché preoccuparsi? Beh, pensa George, è una questione di dignità. Lasciando i pantaloni ad asciugare un po', rimane in attesa del prossimo assalto. Nel fucile gli sono rimasti 4 colpi, 2 per il prossimo attacco dell'elicottero, 2 per qualunque cosa arrivi dopo, e la 357 Magnum per qualunque cosa arrivi alla fine. E adesso non dovrebbe andare troppo per le lunghe. Stuck in your- E questi erano Black Lives Burns con il brano Animal. Ora, dopo queste due letture consecutive di I Sabotatori di Edward Abbey, si ripassa alla controinformazione con l'ennesima notizia di merda che arriva da Atene, dalla Grecia, dove sono stati condannati i compagni Grigoris Sarafudis e Yannis Naxakis per la rapina a Pirgheto. Allora, Corte del Terrore, 17 luglio 2014, sulla rapina di Pirgheto, colpevoli perché sono anarchici. Il pubblico ministero, nelle accuse per il caso della rapina in Pirgheto, alla Rissas, ha superato tutti i limiti e detto molte falsità nella Corte del Terrore di Korydallos, nonostante abbia ammesso lui stesso durante l'udienza che non vi era alcuna prova di colpevolezza contro gli accusati Grigoris Sarafudis e Yannis Naxakis. In ogni caso la colpa era implicita nell'atto di accusa. Non si può ignorare il fatto che gli imputati sono legati al movimento anarchico anti-autoritario. Sentenza per i combattenti anarchici Sarafudis e Naxakis, 16 anni di carcere. La Corte del Terrore ha respinto la richiesta di attenuanti a Grigoris Sarafudis e gli ha imposto la stessa sentenza di Naxakis. Allora, la sentenza è questa: 10 anni per rapina, 6 anni per la partecipazione ad un'organizzazione terroristica che sarebbero le CCF, 5 anni per il furto d'auto, 2 anni per il possesso delle pistole, in tutto un totale di 16 anni di detenzione per ciascuno. E questa era l'ennesima notizia di merda che purtroppo siamo costretti a dare oggi 21 luglio nell'ultima diretta d'azione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Yes Breaker con il brano Ferrut, e poi dopo si ritorna qua con un'ennesima lettura di I Sabotatori di Edward Abbey. Das heißt, dir geht's schlecht. Ich bin unersättlich. Sam Love arrivò tardi per la prima parte dell'azione, ma non per quella divertente. In ogni caso, non avrebbe fatto nessuna differenza. Non aveva più il comando di niente, neanche della sua perplessa curiosità. Erano trascorse 24 ore da quando aveva caricato il fratello delirante su un elicottero assistito da Doc e Bonnie, diretto a un letto nel reparto di cure intensive del Moab Hospital. Sam adesso era un mero spettatore, uno di passaggio, uno che dava un'occhiata e di ciò era felice. Era seduto con un giornalista di un quotidiano di Salt Lake City e su un blocco di pietra e si godeva la scena della battaglia, illuminato dal sole cadente. L'ampio e roseo proscenio del Maze stava di fronte a loro come un grande palcoscenico con buie rosse, collinette purpure e montagne azzurre a fare da sfondo. In primo piano, alla ribalta, un leggero ma stabile crepitio di colpi di fucile. Provava che là dove c'è vita c'è speranza. E due elicotteri e un aereo da ricognizione ronzavano inutilmente verso le quinte, perdendo benzina. Quale ha abbattuto? Ah, quello grande della pubblica sicurezza, se non sbaglio lo chiamano lo UAE civile. Ma non lo ha abbattuto veramente, gli ha solo scheggiato il rotore di coda e gli ha fatto un buco attraverso un finestrino. Non è rimasto ferito nessuno, ma hanno dovuto stare a terra per un po'. E dove si trova lui esattamente? Ah, laggiù, su quella punta. Un giornalista pennivendolo si portò il binocolo agli occhi. Sam fece lo stesso. Vedi, si è infilato in una spaccatura nella roccia tra quei due cespugli laggiù, circa 500-600 metri, mi pare. Sam regolò il fuoco del binocolo e riusciva a vedere di rado i due cespugli, entrambi quasi senza foglie e messi male anche a rami, apparentemente tranciati dai colpi di fucile, ma non c'era alcuna traccia del fuggitivo. E come fai a sapere chi è ancora lì? Beh, ha sparato due colpi un'ora fa, quando hanno tentato di tirargli addosso delle granate. Ha mancato di un soffio il pilota dell'altro elicottero. Osservavano entrambi, su entrambi i lati, un po' più in basso e un po' di fronte. Spari occasionali fendevano l'aria, schioccando come fruste l'aria. A che cosa stanno sparando? Ah, ai cespugli, suppongo. Forse sperano in un rimbalzo fortunato e un modo per uccidere il tempo. Ma senza fare male a nessuno, pensò Sam. Da quant'è che è lì dentro ormai? Il reporter guardò il suo orologio. 6 ore e mezzo, buone. Probabilmente ha finito le munizioni, potrebbe essere una buona idea attaccarlo prima che faccia buio. Il reporter sorrise. Le piacerebbe guidare il Blitz? No. Ma credo a nessuno, in quella spaccatura c'è un cecchino, niente male. Non è da escludere che si sia risparmiato qualche colpo. Mi sa che aspetteranno che sia lui a uscire. Ma un guerrigliere non si arrende. Credo che è meglio che non lo perdino d'occhio. Quel Rudolph ha un modo divertente di sparire oltre i bordi dei canyon e sono sicuri che non sia già penetrato nel Maz. Hanno piazzato due uomini su quella collinetta dall'altra parte del canyon. Dal punto in cui si trova Rudolph c'è uno strapiombo di 150 metri, quasi completamente verticale. Scendere quella parete di arenaria è praticamente impossibile, e anche se ci provasse, lo vedrebbero. E se cadesse, secondo lo sceriffo, finirebbe sbatacchiato in una piena che qui all'Horse Canyon non si vedeva da 40 anni. Direi che il suo Rudolph rosso o nero è finito. Beh, mica è mio. Ma ha una corda molto lunga. I fucili continuavano a sparare sempre dalla stessa parte. Sarei pronto a scommettere che ha finito le munizioni, disse Sam. Forse si arrenderà. Forse. Se fosse un criminale comune, questa sarebbe la soluzione più probabile. Deve essere anche molto assetato. Ma quelli della pubblica sicurezza dicono che oggi hanno a che fare con un tipo molto particolare. Beh, su questo non ci sono dubbi. Sam abbassò il suo binocolo. Mentre ci giocherellava domandandosi che ci faceva lì, sentì un urlo vicino. Un fuoco di fila si scatenò lungo tutta la linea di tiro. Una decina o più di fucili automatici in rapida successione. Le traiettorie dei proiettili convergevano su un unico obiettivo. Dio mio, mormorò Sam, e sollevò di nuovo il binocolo alla ricerca dell'oggetto di questo interesse concentrato. Cercò e trovò subito il bersaglio lì, sulla punta, a pochi metri dal margine estremo del dirupo. Una rigida, goffa figura semi-umana che si sollevava fuori, fino all'altezza della vita, da quella che, dall'angolo visivo di Love, Sam, appariva sempre una massa di pietra uniforme. Vide. Sì, lo vide, il cappellino giallo con la visiera, una specie di testa irsuta alle spalle, il petto, il tronco, una persona che indossava blu denim sbiadito esattamente come ricordava abbigliato Rudolph nei suoi precedenti frettolosi incontri. Le braccia dell'uomo sembravano tenere o essere avvolte intorno ad un fucile. A una distanza così grande, comunque, anche se stava usando il binocolo, Sam non poteva essere certo, non poteva essere assolutamente certo della sua identità. Eppure, doveva essere proprio la stessa persona, per forza, ma con una significativa differenza. Quell'uomo stava per essere trucidato sotto il suo sguardo. Sam Love aveva condotto una vita riparata, preoccupandosi soprattutto dei suoi affari. Non aveva mai assistito in prima persona alla distruzione fisica di un essere umano. Raccapricciato, disgustato e affascinato, guardò la figura di Rudolph, il rosso e il nero, strisciare e scivolare metà dentro e metà fuori. Per l'amor di Dio, cane, perché? Dal crepaccio lo vide investire da una granula di proiettile, il corpo lacerato e dilaniato, pezzetti di carne, stracci, schegge di legno, frammenti di altro volavano via, le braccia inerti come spezzate, il fucile abbandonato a terra, la testa fracassata in briciole e brandelli, il relitto collassante di ciò che solo pochi secondi prima avrebbe potuto essere un vivo, sorridente, adorabile, gagliardo American Boy. Sam fissò la scena e il corpo sforacchiato rimase appeso al bordo roccioso per un ultimo istante prima che l'impatto della tempesta d'acciaio come colpi di martello lo spingesse letteralmente oltre il bordo. I resti di Rudolph il nero caddero come un sacco di spazzatura nel golfo schiumante del canyon, sparendo per sempre alle vista degli uomini e anche delle donne, perché in realtà il corpo non venne mai più ritrovato. Sam si sentì male per alcuni minuti mentre il reporter e tutti gli altri correvano in avanti gridando. Lui pensò, come avrebbe detto sua moglie, che da un momento all'altro avrebbe vomitato anche l'anima, ma non lo fece. Le convulsioni viscerali passarono, anche se il ricordo di quell'orrore avrebbe ossessionato i suoi sogni per i mesi e gli anni a venire. E allora beve un po' d'acqua. Mangiò qualche cracker da una gavetta e dopo un altro minuto si sentì abbastanza bene per raggiungere la polizia, gli sceriffi delle tre contee, i loro vice, l'assistente sovrintendente di un parco nazionale, due ranger, tre giornalisti e gli avanzi, quattro membri della squadra di ricerca e soccorso della contea di San Juan sulla punta estrema della roccia. Non rinvennero alcuna traccia di carne o ossa, ma sulla pietra c'era una generosa striscia di sangue che conduceva sino al bordo. Trovarono il fucile di Rudolph, i resti scheggiati di quello che un tempo era un bel Remington 3006 con telescopio. Una cartuccia era ancora inesplosa nella camera di scoppio. Alcuni si domandarono perché, mentre altri ispezionarono le vestigia sbrindellate dai proiettili della rosa di montagna e del ginepro che in quel lungo pomeriggio avevano offerto al fuorilegge tutta la protezione di cui erano capaci allorché egli sollevò la testa per sparare. Altri esaminarono la pietra arenaria punteggiata dalle cicatrici lasciate dai proiettili, le macchie sbavate di fuoco e polvere dove erano esplose le granate ad una certa distanza, e calciarono pigramente alcune pietre nel crepaccio che divideva il corpo principale dalla punta del suo vertice finale. Le pietre rotolarono rumorosamente giù nelle ombre, scomparendo per terminare la loro corsa con dei tonfi ovattati sui detriti accumulatisi nei secoli sul fondo. Il capitano della compagnia della polizia di Stato si mise in contatto radio con i suoi uomini sul bordo opposto e confermò che Rudolf il rosso, che Rudolf il nero era chiaramente, al di là di ogni ragionevole dubbio, caduto nel canyon. Due uomini avevano osservato l'intera traiettoria discendente del corpo, lo avevano veduto rimbalzare su una balza e svanire sotto le acque agitate della piena. Inoltre, avevano osservato gli arti smembrati del corpo ancora vestiti in denim salire alla superficie della corrente e dondolare via alla vista intorno alla prima curva. Il pilota di un elicottero aveva invano cercato di seguire il tragitto dei resti giù per le cascate sino al fiume. Il capitano raccolse il fucile spezzato con le cartucce esplose. Tutti gli uomini si allontanarono lentamente senza parlare, molto chiusi, sì, chiusi nei loro pensieri, dirigendosi al campo della Lizard Rock. Tutti tranne Sam Love. Ultimo ad arrivare sulla scena della morte fu anche l'ultimo a lasciarla. Indugiava, senza sapere perché, guardando giù nel canyon rombante, confuso dal rumore e un po' spaventato, perché sentiva il richiamo arcano delle profondità. E allora arretrò di alcuni passi, sollevò lo sguardo e rimirò le pareti e i canyon, le lastre del Maze, quel grottesco labirinto di pietra dorata alla luce del tramonto. Desideroso di lontananza, di distacco, si mise a guardare in direzione nord verso le remote Book Cliff, 80 km in linea d'aria, e ad est verso i picchi di 4000 metri screziati di neve oltre il Moab. Infine, Sam si voltò e guardò indietro la lunga strada da cui anche Rudolf era venuto, superando così Candlestick, Spire, Lizard Rock verso gli inesplorati Fins, le poco conosciute profondità della regione di Standing Rock, tutto scurito ora dalla vasta ombra azzurra della terra conosciuta come Land's End. Il sole stava tramontando. Era arrivato il momento di andarsene. Sam si inginocchiò per dare un'ultima occhiata nella spaccatura buia e profonda nella roccia. Cercò di vedere il fondo. Troppo buio, troppo buio, troppo buio. Rudolf! Chiamò. Sei là in fondo? Aspettò, nessuna risposta. Non puoi fregare tutti, figliolo, non sempre. Pausa. Mi senti? Nessuna risposta, tranne quella del silenzio. Sam aspettò ancora un po', poi si alzò e raggiunse con passo spedito i suoi amici e vicini. Gli aspettava un viaggio faticosamente lungo e complicato, il ritorno a Blenning via Land's End, Green River e Moab. La strada più breve che passava da Hyatt Marine attraversando il Colorado era stata temporaneamente chiusa dal Dipartimento delle Autostrade per quella che veniva definita normale manutenzione del ponte. Ma Sam cominciava sì a sentirsi meglio, il suo stomaco cominciava a sentirsi meglio, sentì tornargli l'appetito. Lui è il superbo avvoltoio così in alto da essere quasi invisibili. Condividevano un'emozione comune. Era tempo di mangiare. E questi erano DK.com con il brano Drag Me Down. Ora si ripassa alla controinformazione, ci dilunghiamo oggi, è l'ultima, quindi portiamo a finire il tutto. Allora, la controinformazione sono due notizie, una breve che arriva da Salonicco, ennesima notizia di merda. Purtroppo oggi... Oggi tutte notizie di merda, dove è stata arrestata la compagna Stella Antonio. La compagna Stella Antonio è stata arrestata a Salonicco oggi 15 luglio per aver violato la libertà vigilata. Un altro compagno che era con lei è stato arrestato dopo che era stato ricercato per aver rifiutato la leva militare. Nessun compagno, solo nelle mani dello Stato. Seguiranno poi aggiornamenti sul caso. Purtroppo vediamo che è ancora in Grecia, fortunatamente qua in Italia la leva militare l'hanno tolta obbligatoria, hanno creato ora, un corpo di assassini, sì, ora assassini volontari. Allora, l'altra notizia invece è che nessuno ci venga a rompere i coglioni che sono proletari in cerca di salario. No, vabbè, questo cioè, anche questi proletari è meglio vederli morti. Poi tra l'altro vediamo quello che sta succedendo ultimamente, gli attacchi addirittura, cioè, in Palestina, di cui si parla poco, si parla di palestinesi ma non si parla mai di Palestina. Non è che stiamo a rivendicare uno Stato, sia chiaro, però comunque c'è la volontà da parte dei media di azzittire un po' la rivendicazione del territorio dei palestinesi, facendo passare l'attacco di Israele come un attacco crudele, però comunque alla fine dall'altro lato non ci sono i palestinesi, ci sta solo Hamas. Non c'è invece solo Hamas, c'è un popolo, c'è individui, uomini e donne che in qualche modo subiscono e reagiscono. E non a caso la maggior parte delle vittime sono bambini. Allora, l'altra notizia arriva da Santiago da Cile, dove sono stati scontri fuori al liceo Manuel Barros Borgogno in solidarietà con Tamara Sol Vergara, Juan, Fred e Marcelo. Allora, la notizia la ricevo tramite mail dai compagni cileni. Il 9 luglio 2014 un gruppo di incappucciati ha deciso di scendere in strada al di fuori del liceo Manuel Barros Borgogno, facendo barricate e scontrandosi con le pietre, vernice e bombe molotov contro la polizia. L'azione e lo scontro in strada sono stati fatti in solidarietà con i compagni Juan, Freddy e Marcelo, compagni che recentemente sono stati condannati per alcuni espropri bancari e la morte di un poliziotto. Lo scontro in strada è stato anche un gesto di solidarietà con la compagna Sol Vergara, che è in carcere accusata di aver sparato ad una guardia di una banca. Dopo la lotta in strada, la polizia ha arrestato 10 compagni, 3 dei quali che sono stati accusati per il possesso di bombe Molotov. Per tutti sono stati dati gli arresti domiciliari. Poi, sotto l'articolo che abbiamo appena letto sul sito di Radiazione, potete anche vedere le immagini che ci hanno inviato i compagni dal Cile. Ora ci ascoltiamo un brano, Eteri Teenage Riot con il brano Reset, e poi dopo altre due letture di seguito di I Sabotatori di Edward Ebbey, così lo mandiamo a termine, e poi alla fine una 013 che non andrà a termine, però... Ma è gran finale aperto, perché noi non finiamo. Noi non finiamo. Allora, Eteri Teenage Riot Reset. It's time! è Rudolf il nero, Rudolf il rosso, i sabotatori. Adesso sono finiti, ma abbiamo ancora un epilogo davanti a noi, un epilogo che forse non piacerà a tutti, a noi non piace, però ci ha portato desiderio e piacere raccontare questa storia che tanti rivoli affini, a tante lotte, a tanti compagni, continua e continueremo. E comunque è sempre bene anche leggere di libri come in questo caso il racconto di Sabotatori, che non finiscono sempre bene, perché comunque ti danno una carica ad andare anche avanti e non arrendersi e pensare che non c'è nulla più da fare. Anzi, leggete il sito di Radio Azioni. Il nuovo inizio. La trafila legale fu lunga e tediosa. Essendo stato catturato nella contea di Wayne, Seldon St. Smith venne prima rinchiuso nel carcere di Loa, il capoluogo della contea, per essere poi trasferito due giorni dopo al penitenziario della contea di San Juan a Monticello, come dicono gli americani, Monticello detto all'italiana. Miss Bonnie Abzug e il dottor A.K. Service lo stavano aspettando proprio nelle celle attigue. Il loro paziente, Bishop Love, superata la fase critica, stava lentamente recuperando. Abzug, Service e Smith furono chiamati a rispondere davanti al tribunale distrettuale della contea delle seguenti accuse: aggressione con armi letali, reato grave, aggressione semplice, reato minore, intralcio alla giustizia, reato minore, incendio doloso, reato grave, incendio doloso aggravato, reato grave e cospirazione, reato gravissimo. La cauzione per ciascuno degli imputati venne fissata in $20,000 che Doc versò prontamente. Dopo alcuni giorni di libertà, i tre furono convocati dal Tribunale federale di prima istanza di Phoenix, in Arizona, per aver violato le leggi federali e rispondere ai seguenti capi di accusa: cospirazione, incendio doloso e incendio doloso aggravato, trasporto illegale e uso di esplosivi e fuga dalla custodia cautelare, tutti i reati gravi e resistenza a pubblico ufficiale che era un reato minore. La cauzione fu fissata in $25,000. Doc versò anche stavolta. Dopo mesi di consueti rinvii, il Tribunale federale rinunciò alla priorità e concesse allo Stato dello Utah di processare per primo gli imputati. La causa dello Stato dello Utah contro Abzug, Service e Smith si celebrò nell'aula del Tribunale distrettuale della contea di San Juan Monticello. Presidente il giudice Melvin Frost. Sempre importante dire nome e cognome dei magistrati. Il pubblico ministero era J. Bracken Dangledine, un cugino alla lontana del nostro Dangledine di Albuquerque, procuratore della contea appena eletto e amico e associato e socio d'affari di Bishop Love. Un Love che si era ripreso, anche se dentro di lui qualcosa era cambiato. Le sue convinzioni non erano più così chiare e il suo cuore, sottoposto a cure intensive, si era ammorbidito. Per la difesa Doc ingaggiò due avvocati, il primo un giovane laureato della Yale Law School con buoni legami familiari sia in Arizona sia nello Utah e il secondo un nativo della contea di San Juan, discendente dei pionieri mormoni, un anziano stimatissimo gentiluomo di buone maniere chiamato Snow, che dalle aule dei tribunali usciva quasi sempre vittorioso. Il primo passo della difesa fu la richiesta di patteggiamento. Tutti e tre gli imputati erano disposti a dichiararsi colpevoli dei reati minori se quelli gravi fossero stati cancellati. Il pubblico ministero respinse l'ipotesi di patteggiamento. Era deciso a inchiodare gli imputati su tutte le accuse. Dingledine, come Bishop Love, coltivava ambizioni politiche. Gli avvocati di Doc allora lavorarono con particolare attenzione sulla lista dei giurati e riuscirono ad avere al banco della giuria ben due attivisti del Sierra Club e un perfetto sgangherato. Un indiano nativo americano, paiute in pensione ma ancora attivo come etilista proveniente dal villaggio di Bluff. E il processo cominciò. Si capì ben presto che l'accusa non aveva molti assi nella sua manica. Prove decisive come impronte digitali e testimoni oculari che consentissero di collegare qualcuno degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio con i reati, bene, non esistevano. I materiali incriminati presenti sul furgone di Smith e sulla Jeep di Aydak non furono ammessi come prova, nel senso che nessuno dei due veicoli fu più ritrovato. Smith dichiarò che il suo furgone era stato rubato e anche se Bishop Love, citato come testimone sotto giuramento, e 5 dei suoi squadristi testimoniarono di aver visto e inseguito qualcuno alla guida del furgone di Smith in 2 diverse occasioni, bene, nessuno fu in grado di affermare di avere visto lo stesso Smith o uno degli altri 2 imputati alla guida del mezzo. La prova più consistente prodotta contro gli imputati si dimostrò essere il fatto che in almeno 2 circostanze erano stati visti allontanarsi dalla scena del crimine, fuggendo e resistendo all'apparenza all'arresto, ma tutti negarono di essere a conoscenza dell'incidente dei massi rotolanti a nord di Hyde Marina e dello scontro a fuoco che ebbe luogo nel corso della notte lungo la pista per fuoristrada che portava al Maze, durante la quale, secondo Doc, lui e i suoi amici si stavano godendo un'escursione al chiar di luna da Lance and Elizabeth Rock. Gli avvocati della difesa sottolinearono inoltre che nessuno degli imputati aveva precedenti penali e che 2 erano volontariamente corsi in aiuto dello sfortunato Bishop Love quando ne ebbe disperatamente bisogno. Nel giro di 3 giorni tutti i testimoni furono ascoltati e il dibattimento concluso, la giuria si ritirò per valutare il suo verdetto e i giurati non riuscirono a trovare un accordo. 2 giorni supplementari di confronto coatto non produssero alcun verdetto, anche se in seguito i 2 membri segreti del Sierra Club rivelarono di aver entrambi votato per la colpevolezza su tutti i capi d'accusa. La giuria fu sospesa e venne fissato un nuovo processo da celebrare 4 mesi più tardi. I legali di Doc presentarono una nuova richiesta di patteggiamento e questa volta ottennero una risposta positiva. Dopo settimane di trattative private venne raggiunta la seguente soluzione. Doc incominciò uno studio approfondito del Libro di Mormon e fece sapere attraverso i suoi avvocati che si stava preparando alla conversione per diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno. Lui e Bonnie si sposarono con una semplice cerimonia all'aperto celebrata da Bishop Love in persona. Oh, guarda caso, un uomo nuovo nella Valley of the Gods, vicino a Mexican Hat. Seldom Sin fu il testimone dello sposo, Sam Love quello della sposa, la figlia adolescente di Smith damigella d'onore. Tutti e 3 gli imputati si dichiararono colpevoli per i reati minori e per un reato grave a testa, quello di cospirazione per distruggere proprietà pubblica. Rimasero in attesa della sentenza, anche questa preparata in accordo con il giudice Frost. Qui Habzug e Smith crearono qualche nuova difficoltà rifiutandosi all'ultimo minuto di sconfessare completamente i crimini compiuti, borbottando entrambi che, con le parole di Smith, beh, qualcuno doveva pur farlo. Il funzionario di sorveglianza assegnato al caso per preparare una relazione pre-sentenza al giudice venne a trovarsi in gravi difficoltà. Si consultò con Doc, il giudice e i legali di Doc. Doc si assunse la piena responsabilità per gli atti e i comportamenti dei suoi coimputati, insistendo sul proprio ruolo di mente della cospirazione e deve pertanto lui e lui solo influenzato, indottrinato e consapevolmente traviato i suoi più giovani colleghi. Garantì che avrebbe rigenerato i loro cervelli, socializzato i loro cuori e li avrebbe ricondotti da Cristo. Egli, Doc, promise altresì che non lo avrebbero fatto più, e accetto di buon grado sul suggerimento del giudice di praticare l'arte della medicina per almeno i successivi 10 anni in una comunità dello Utah sud-orientale con meno di 5.000 abitanti. Così pattuito, il giudice pronunciò la sua sentenza. Habzug, Sarvis e Smith furono condannati a pene identiche, comprese tra 1 a 5 anni da scontare nella Utah State Prison, dove la morte per fucilazione è una possibilità ancora prevista. Le sentenze di reclusione vennero poi sospese, considerando la mancanza di precedenti degli imputati e altre circostanze attenuanti, ma venne imposto a tutti e tre il confino per 6 mesi nella prigione nella contea di San Juan, con la pena accessoria di 4 anni e mezzo di libertà condizionata, subordinata al buon comportamento e al pieno rispetto degli accordi stipulati tra le parti. Inoltre, al solo Smith venne comminata la sanzione massima, per un reato minore, di $229 per rotolamento di massi e ordinato il risarcimento a Bishop Love nel pieno valore della sua Chevrolet Blazer, che era stata appiattita, e tutti lo riconobbero, come una cimice. Ma il nuovo Love, Sam, dimenticò il debito. Il Tribunale federale di prima istanza di Phoenix, presa nota dell'azione del 7° Tribunale distrettuale dello Utah e delle raccomandazioni del giudice Frost, accettò di far cadere le accuse contro Habzug, Sarvis e Smith per i reati presumibilmente commessi nello stato dell'Arizona, considerando che il sospettato numero uno coinvolto in quelle faccende, un maschio caucasico identificato solo come Rudolf il Rosso, Rudolf il Nero oppure come Hermann Schmidt, era dato per morto. Il procuratore della contea Dingledine, sebbene privatamente, sia pur con una certa riluttanza, avesse concesso il proprio benestare a questa soluzione della vicenda, in pubblico esibì i sintomi di una sprezzante indignazione, come in fondo era naturale. Incoraggiato dalle numerose dichiarazioni risentite per la clemenza delle corti, per come venivano coccolati i criminali e per l'atteggiamento permissivo della società nel suo complesso, il signor Dingledine conquistò un seggio al Senato dello Utah, presentando un programma di rigorosa applicazione delle leggi, espansione del sistema carcerario dello Stato, sussidi federali all'industria mineraria, completamento del sistema di comunicazioni stradali nella regione naturale dello Utah, diminuzione della pressione fiscale per le famiglie numerose e responsabilità fiscale nel governo. Venne eletto da una maggioranza schiacciante, battendo il suo unico avversario, un nativo americano paiute in pensione, la cui intera piattaforma politica si basava su un unico punto programmatico: liberalizzazione del peyote, il fungo. Ci furono ulteriori sviluppi e ramificazioni. Entrambi i fratelli Love lasciarono la squadra di ricerca e soccorso, la Posse. Il povero Seldon Sin, che stava già scontando i suoi mesi di carcere, dovette tornare in tribunale per l'istanza di divorzio presentata dalla sua prima moglie e immediatamente dopo anche dalla seconda. Soltanto Susan, la ragazza del Green River, gli rimase fedele. E quando le suddette notizie glielo raggiunsero alla prigione della contea di San Juan, Smith tentò di farsi una ragione di questa infornata aggiuntiva di difficoltà legali, dicendo: «Beh, spero che le due ragazze si risposino presto, perché così saprò che ci sono almeno altri due uomini dispiaciuti che mi abbiano sbattuto in galera». Una pausa. «Come cavolo dovrei comportarmi di fronte alle loro accuse di ambiguità, Doc?» «Ma non prendertela», disse Doc. «Cristo è la risposta». Doc, il dottor Service, vendette la sua casa di Albuquerque insieme alla neo signora Service, scelse la città di Green River, 1200 abitanti contando anche i cani, come loro nuova residenza legale. Doc acquistò una houseboat di 20 metri, la ormeggiò alla rampa per battelli del ranch di fieno e cocumeri di Smith. Lui e Bonnie traslocarono lì una settimana dopo aver scontato la loro pena carceraria. Bonnie coltivò un giardino galleggiante di marijuana, facile da scaricare nel fiume in caso se ne presentasse la necessità, semplicemente mollando un cavo. Doc frequentò per circa un anno le riunioni del mercoledì sera della congregazione della società per il mutuo miglioramento e andò in chiesa per circa un anno e mezzo ogni domenica. Dio cane, cercò persino di indossare la maglietta ufficiale santificata della regola mormona, anche se la sua vera ambizione era di diventare un mormone non praticante come Seldon. Sua moglie, Bonnie Abzug, rifiutò di convertirsi preferendo conservare il proprio status di unica ebrea gentile di Green River. Doc affittò uno studio in città a 15 km dove lui e Bonnie praticavano la medicina. Lui curava la gente, lei mandava avanti lo studio. E anche se la clientela era scarsa e a volte pagava il conto in cocomeri, le prestazioni di Doc erano molto apprezzate. Il suo medico concorrente più vicino viveva a Moab, distante 80 km, ed egli incrementava le sue entrate quando necessario con qualche lavoretto di bisturi a Salt Lake, Denver e Albuquerque. A entrambi piaceva vivere sul fiume e lavorare in una piccola città e apprezzavano la compagnia dei loro unici vicini, il signore e la signora Seldon Smith. Doc imparò perfino come far correre una balla di fieno, anche se si rifiutava di avvicinarsi ad un trattore o guidare un'auto. In ufficio comunque lui e Bonnie andavano sempre in bicicletta. E qui la loro storia si concludeva felicemente, eccetto per un unico e postumo che viene dalla terra. Dettaglio. Game. accadde durante il secondo anno di libertà condizionata. Cinque persone siedono intorno a un tavolo fatto e incompensato nel salone di prima classe di una grande e comoda houseboat realizzata su indicazione del cliente. Sono le 11 di sera. Il tavolo è illuminato da due lampade di Aladino a cherosene, silenziose e schermate, che bruciano allegramente a due ganci di ferro della nave del soffitto. Le lampade di tanto in tanto oscillano mentre le houseboat beccheggia dolcemente sulle onde del fiume. Il tavolo è coperto da un panno verde. Al centro del panno ci sono delle fish da poker. Molto triste da raccontare. È il gioco, scelta del mazziere, è uno stud a cinque carte. I cinque giocatori sono il dottore e la signora Service, i coniugi Smith e il funzionario comunale addetto alla loro sorveglianza, un giovane che si chiama Greenspan. Arrivato relativamente da poco nello stato dello Utah. E i nuovi arrivati sono sempre i benvenuti nello stato alveare, ma al momento del loro ingresso vengono avvisati di portare indietro i loro orologi di 50 anni. La conversazione è soprattutto di natura pratica, limitata. Il piatto è a posto. Vediamo, 10 non serve, 7 magari, coppe di due, donna non serve, guardate un po' qua, una bella coppia di cowboy. Come hai fatto, Doc? Controllo, amici, controllo. Possibile ogni volta. Nefi, Dio Nefi, guida la mia mano. Facciamo 10 sui re. Gesù, vedo anch'io. Non è una partita per noi commessi di negozio, ma resto. E tu? Chiede Doc. Ma solo una carta è coperta in questo gioco. Esatto, darling. Non c'è il jolly, nemmeno uno. Ma che gioco disonesto e noioso. Smith alza lo sguardo dal tavolo sentendo qualcosa. Anche Doc la sente. Non è il vento che sale dal fiume, non è il quieto cigolio della barca, è qualcos'altro. Lui ascolta. D'accordo, ci sono dalle carte. Che state guardando tutti a bocca aperta? Certo, tempo, Seldom. Io sono fuori, compari. Seldom incrocia le braccia senza guardare il gioco. Ok, il piatto è a posto, si ricomincia. Doc distribuisce le carte sistemandole una alla volta a faccia in su. La vecchia storia che si ripete. 4 non serve, Bonnie ha un 2, mi spiace. 3 non serve, Asso non serve molto. Re, mettiamone altri 10. Lui ascolta mentre gli altri chiamano, incrociano le braccia, chiamano. Sente il suono di zoccoli, è il battito del cuore. No, è davvero il suono di un cavallo, forse due. Qualcuno o qualche cosa sta cavalcando per la linea sterrata tra i campi sotto le luccicanti stelle estive verso il fiume, verso la houseboat. Non veloce, ma sciolto a un ritmo da passeggiata. Il suono è nitido nella tranquillità. Il gioco va avanti. Doc spazza il piatto, il mazzo passa a Greenspan, mescola le carte. Doc lancia un'occhiata a Bonnie che sta fissando malinconicamente il tavolo. Qualcosa sta preoccupando la ragazza, forse la sua situazione stanotte le deve parlare. Questo gioco va avanti da 4 ore e abbiamo vinto solo $6. E tra mezz'ora Greenspan se ne deve andare. Non si può vivere onestamente così. E le lancia un'altra occhiata, forse c'è dell'altro. Stanotte la devo ascoltare, anche se ci sono delle cose o una cosa di cui lui e Bonnie non parlano mai. Lo scalpiccio costante degli zoccoli si fa più vicino mentre Greenspan distribuisce le carte. Doc guarda Seldom che sta guardando lui. Seldom alza le spalle. Fra un momento, adesso, sentiranno il battito e l'acciottolio dei ferri sulle vecchie assi del pontile. Greenspan guarda il suo orologio. Deve tornare con la macchina fino a Price stanotte. Più di 100 km, sempre impeccabile. Il giovane addetto alla sorveglianza indossa un panciotto scamosciato nuovo, del tipo con le frange da montanaro e le borchie d'argento. Aprirò io, dice. Due fagioli. E spinge due fish al centro del panno dove ce ne sono altre. Susan Smith, la moglie di Seldom, è la seconda a parlare. Ci sto, tocca a Bonnie. Altri due, dice, osservando sorpresa la sua mano. Brava ragazza. La houseboat dondola sull'acqua, le lampade oscillano lievemente e il vento risale il fiume, correndo sul calmo flusso marrone del Desolation Canyon. Piccole onde lambiscono la linea di galleggiamento all'esterno, sbattendo contro lo scafo di legno rivestito in fibra di vetro. Doc avrebbe voluto una houseboat in mattoni di adobe con vigas di pino giallo sporgente a cui appendere ghirlande di peperoncini rossi alla New Mexico. Non disponibile a nessun prezzo, persino la marina messicana aveva dovuto rinunciare alle imbarcazioni in adobe, eccetto per i sommergibili. I cavalli si sono fermati invece. Di zoccoli ferrati sente gli stivali di un uomo con speroni tintinnanti che avanzano sull'impiantito. Doc si alza in piedi mollando giù le sue carte, si prende il sigaro. Qualcosa non va? Chiede la signora Smith. Credo che abbiamo visite. Doc sente un bisogno forte di incontrare quel visitatore fuori della porta. Ancora prima che abbia bussato, lui si allontana dal tavolo. Scusatemi. Va alla porta e la apre, sbarrando la strada con la sua struttura imponente. Inizialmente non vede nessuno, scrutando con maggiore attenzione riesce a distinguere una figura alta e sottile tagliata fuori dalla luce della lampada. Sì? Dice Doc. Chi è? È lei, dottor Service? Sì. C'è un suo amico qua fuori. La voce dello sconosciuto è soffice e bassa, ma carica di un consumato tono minaccioso. Ha bisogno di cure. Un mio amico? Sì. Doc esita. I suoi amici sono tutti dentro, intorno al tavolo, che lo fissano, e voltandosi verso di loro Doc dice: tutto a posto, tornerò tra qualche minuto, continuate senza di me. Si chiude la porta alle spalle e segue lo sconosciuto, che nel frattempo è tornato sulla sponda del fiume. Un cavallo è lì fermo con le redini abbandonate sul terreno. Mentre i suoi occhi si abitano alla luce delle stelle, Doc vede confermata la sua prima impressione di un uomo alto ma molto magro, uno sconosciuto totale, vestito con levis polverosi, un cappello nero e una bandana sopra il naso e la bocca. L'uomo lo fissa con un occhio scuro, l'altro nota Doc. E quello sinistro non c'è più. Chi diavolo è lei? Domanda Doc. Aspira il suo sigaro facendo ardere la cenere rossa nel buio. Un segno porta fortuna. Non credo ti interessi davvero, Doc, ma... Un leggero movimento dietro la maschera come un sorriso. Qualcuno mi chiama Chemo Sabbe. Andiamo. Aspetta un momento, Doc si è fermato. Dov'è questo presunto mio amico? Dov'è il malato? Una pausa. Il vento sospira sul fiume. Lo straniero domanda. Tu... ci credi ai fantasmi, Doc? Il dottore riflette. Credo ai fantasmi che abitano nella mente umana. Questo non è di quel tipo, no? No, questo è reale e viene da lontano. Beh, dice Doc un po' scosso, andiamo a vederlo. Dov'è questo fenomeno? Dov'è? Un altro momento di silenzio. Lo sconosciuto accenna con il capo al sentiero sopra la sponda del fiume. Sono qua su, Doc, dice una voce familiare. Doc sente un brivido corregli lungo la schiena, guarda in su attraverso l'oscurità in direzione della voce e vede un secondo uomo a cavallo che si staglia contro la Via Lattea, un massiccio uomo, muscoloso, dalle spalle larghe con il sombrero e un sorriso che le stelle bastano a far brillare, monta un cavallo che deve essere alto 7 spanne. Dio mio cane, pensa Doc, e poi si rende conto di non essere realmente sorpreso, che da 2 anni sta aspettando questa apparizione, sospira. Siamo di nuovo qui. George, sì, sei tu George. Sì. Chi diavolo se no? Doc sospira di nuovo. Ma ti avevano fatto a pezzi la Lizard Rock? Non avevano fatto a pezzi me, ma Rudolph, uno spaventapasseri, un povero imbecille. Beh, perché non ci inviti, santo cielo? Vi racconterò com'è andata, è una storia lunga. Doc si volta verso la houseboat, attraverso la luce della finestra con la tendina vede Greenspan e gli altri al tavolo, le carte che si muovono sotto la luce della lampada. George, ce l'ha detto la nostra sorveglianza. Oh beh, merda, andiamocene, molliamolo lì. No, aspetta un minuto, è un bravo tipo, non mi va di metterlo in una posizione difficile, capisci? Tra mezz'ora se ne andrà, perché tu e il tuo amico non portate i cavalli su al pascolo e ci aspettate alla casa di Seldom? Non c'è nessuno là, sai dov'è la casa? Ci siamo stati 5 minuti fa, disse Aidek. Lo fissano a vicenda attraverso la luce delle stelle. Doc non è del tutto convinto. George, ma sei davvero tu? No, sono Isabeau Ignaz. Vieni su e controlla le ferite. È quello che sto facendo. Doc si arrampica su per la sponda. Il cavallo si agita nervoso. Wow! Ignorante figlio di puttana motherfucker. Sì, dammi un po' di pelle, Doc. Aidek sta sorridendo come un ragazzino. si stringono la mano, si abbracciano. L'apparizione è identica al solito vecchio Haydak, solido e puzzolente. Nessun miglioramento apprezzabile. Dio mio, è davvero lui? Il dottore cerca di scacciare indietro le lacrime. Ma stai bene? Oh, benissimo, qualche ferita mi dà ancora fastidio, ma niente di più. E mio amico qui voleva conoscerti. Seldon, come sta? Ah, oh, è sempre lo stesso. Sta ancora lavorando al suo progetto per la diga. Ah, questo è un bene. Il cavallo batte gli zoccoli sul terreno. Sta fermo, cazzo. Una lunga pausa. E Bonnie? Ci siamo sposati. Ah, mi era giunta voce. Come sta? È incinta di 4 mesi. Merda. Lungo silenzio. Mi possano dannare. Bonnie c'è rimasta. Potevano fottermi, bastonarmi, tatuarmi il corpo, ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. È successo, disse Doc. Che cosa pensa di fare? Beh, diventare una mamma. Ein Welt ohne Mutter. Man sollte die Weiber zunehmen. Che mi venga un colpo. George sorride, triste, allegro e folle, tutto in una volta come un leone liberato. Sei una vecchia scorreggia arrapata, Doc. Voglio vederla. La vedrai. Un'altra pausa. Adesso mi chiamo Fritz Godsell e ho una nuova identità. Il sorriso di Haydak si allarga. E ho anche un nuovo lavoro. Comincerò a lavorare come guardiano notturno la prossima settimana. Sarò un cazzuto cittadino regolare, Doc. Proprio come te e Seldon e Bonnie. Almeno per un po'. Doc guarda di nuovo verso la houseboat, la porta principale aperta. Bonnie è in piedi sotto la luce che cerca di vedere fuori. Beh, è meglio se torno dentro. Aspetta, ci voglio darti un'occhiata con calma e controllare quelle ferite. E sicuramente anche Bonnie e Seldon. Non andate via. Merda, Doc, dai, siamo stanchi e affamati. Non andremo da nessuna parte questa notte. Bonnie chiama. Doc, sei lì? Arrivo, risponde lui. Un minuto. Haydak sogghigna. Buon vecchio Doc, avete fatto un buon lavoro tu e Seldon su quel ponte. Di che stai parlando? No, dico il ponte sul Glen Canyon. Non siamo stati noi, eravamo qui quel giorno. Abbiamo dei testimoni che ce lo possono confermare, grazie a Dio. Beh, sono stato fregato di nuovo, dice Haydak, confuso. Scuote la testa e pondera questa informazione. Hai sentito? Dice al suo compagno mascherato. Il compagno che è rimontato a cavallo annuisce. Doc, dice Haydak, è meglio che ritorni alla tua sposa prima che ti morda il culo. C'è solo una cosa che ti voglio chiedere prima. E cosa? Doc mastica il mozzicone del suo sigaro che si è spento. Che cosa? Non mi chiedi dove faccio il guardiano notturno. Haydak gli sta di nuovo sorridendo. Adesso tocca a Doc ponderare. E brevemente. No, George, penso sia meglio non saperlo. Haydak ride e si volta verso il suo compagno. Che ti avevo detto? E poi si rivolge a Doc. Hai di nuovo ragione, ma puoi immaginarlo, vero? Oh, sicuro che posso immaginarlo. A Seldon piacerebbe saperlo. Glielo puoi dire tu stesso, giusto? Tu sei il dottore, ok? Ti aspetteremo, andiamo. Haydak allontana il suo cavallo gigante da Doc, dandogli un colpetto con i talloni. Il cavallo parte al trotto sbuffando deliziato. Ma non fateci aspettare troppo, urla Haydak scomparendo nella penombra. I due cavalieri percorrono il sentiero immerso nell'oscurità, disegnando una curva verso il pascolo. Doc rimane a guardarli per un istante, poi ridiscende la sponda faticando a restare in piedi. Riprende l'equilibrio e rientra con fare indifferente nella sua casa galleggiante, tirando con vigore dal suo sigaro morto. Come va il gioco? Butta là. Chi era? Domanda Bonnie. Nessuno. Chi è Di Mazzo? Questa è l'ultima mano, dice Greenspan mescolando le carte. Ci sei, Doc? Certo. Doc strizza l'occhio a Bonnie e Seldon. E non dimenticare di tagliare quelle carte del cazzo. E qui si è conclusa la lettura dei Sabotatori di Harold Abbey. Si è conclusa con il ritorno non di Rudolph, ma di chi si credeva ucciso. E comunque a noi piacciono le persone che non usano gli strumenti legali per venire meno, ma si rivendicano ciò che fanno. E dopo aver finito la lettura di Sabotatori di Edward Ebbey, ora leggiamo l'ultimo pezzo di Nazero 13 per quanto riguarda questa stagione, poi si va in pausa. Abbiamo già fatto molto, siamo andati oltre. Lo ricordo, Nazero 13 non finisce qua, perché si sperava di portarla a termine con l'ultima diretta, però il finale è ancora in sospeso. Allora, Na 013. All'improvviso Alni, che è il primo della fila, viene tirato per la camicia dentro un vicoletto. Gli altri tre immediatamente tirano fuori le armi per salvare il loro compagno e, le puntano verso il picchetto. State calmi, ragazzi. Non volevamo spaventare il vostro amico, ma sembra un po' azzardato da parte vostra passeggiare in mezzo alla strada. Un uomo sui 60, molto robusto e barba incolta, rassicura i refrattarios che ancora sono frastornati da tutto ciò che hanno visto e non si fidano di chiunque. Ok, dice Mark, tenendo la pistola puntata verso l'uomo. Capisco la vostra preoccupazione, ma ora lasciate uscire il nostro compagno. Il vostro compagno non è stato rapito da nessuno, quindi abbassate le armi che potranno servirvi contro quei bastardi che stanno facendo la ronda nel caso decidessero di sfondare le barricate. Intanto Aki si guarda intorno, sempre con la pistola in pugno, cercando di dare uno sguardo ai blindati ed uno alla discussione che sta avvenendo tra i rivoltosi e i suoi compagni. Lo stesso Alni dice ai suoi compagni di mantenere la calma perché non c'è proprio bisogno di alterarsi. Ashelen è la prima ad abbassare l'arma, poi con molta delicatezza allunga il braccio e con la mano abbassa la pistola di Mark. Grazie. Con uno sguardo basso e compiaciuto, l'uomo si rivolge alla ragazza. Ashelen strizza l'occhio all'uomo e con il pollice verso l'alto fa segno che è tutto ok. Passate da questo lato, che c'è del caffè appena fatto. Una donna anziana in un dialetto stretto con in mano una di quelle vecchie macchinette napoletane del caffè da mezzo litro invita i ragazzi a superare le barricate. I tre saltano le auto messe di traverso che bloccano il vicolo e raggiungono Alni. Io sono Beppe e sono l'unico a non essere di questo quartiere. A turno i refrattarios si presentano all'uomo e al resto dei rivoltosi. Loro mi hanno salvato la pelle ed io dato che un po' di esperienza in certe situazioni sto aiutando loro. Aki, che ha la mano tesa mentre la donna anziana gli versa il caffè, si gira verso il gruppo di rivoltosi. Noi anche siamo della città, ma momentaneamente non abitiamo qui. Abbiamo preso la notizia alla radio e siamo venuti a dare un'occhiata. Ma cosa sta accadendo più precisamente? Non sapete cosa è accaduto? Beppe dà uno sguardo rapido ai quattro. E cosa ci fate armati? Non penso che avete portato le armi dietro con voi pensando di andare ad un corteo. O perlomeno non si usa più farlo dai miei tempi. Fatti i cazzi tuoi, Mark risponde stizzito all'uomo. Non mi faccio di certo i cazzi tuoi dopo 20 anni di carcella. Vi facevo solo un po' di storia. Quasi tutti e quattro i refrattarios rispondono all'unisono. Carcelia. Poi Annie si fa largo tra i suoi amici e rivolgendosi all'uomo. Beppe, ci stai prendendo per il culo? Da Carcelio nessuno esce vivo. Raccontale ai bambini queste cose. Annie fa finta di non sapere quanto sia accaduto nel carcere fognario. Ti ho detto che questa gente mi ha salvato e non è un caso. E comunque si vede che mancate da Nazero 13 da un po' di tempo, ma ogni tanto una notizia prendetela. Un attimo di silenzio e poi l'uomo continua. Carcelia è stata violentata. L'abbiamo violentata. Non tutti, ovviamente, perché non tutti hanno voluto rischiare la propria vita per uscire dalla fogna. Ma chi ha avuto il coraggio si è preso soddisfazioni da non poco. Forse avrete bisogno di altri 30 anni a testa per prendervi le stesse nostre soddisfazioni. Dopo l'evasione e l'esposizione della testa del direttore di carcere in pubblica piazza è partita la caccia agli evasi, ma fortunatamente quasi negli stessi momenti è partita la rivolta generale in città ed io sono stato accolto e salvato dalla gente di questo quartiere. Gli altri spero che si sono salvati come me, perché se trovano uno di noi non voglio nemmeno immaginare cosa ne farebbero. La testa di Lerit, esclama Aki con le orbite da fuori. Conosci Lerit, la ragazzo? Chi non conosce quel pezzo di merda lurido bastardo? Allora riformula la domanda. Conoscevi l'Erith, ragazzo? Beppe, a quel punto, con gli occhi ancora pieni di gioia solo a pensare al momento del taglio della testa di Lerith, si lascia andare in una grossa risata che azzittisce Aki. Beppe, dovremmo fare due chiacchiere, mi sa. Mark interrompe la risata dell'uomo. Possiamo anche parlarne qui, tra tutti. No, preferiamo farle solo con te, a disparte, se possibile. Ok, mi fido, non vedo nessuna coda o zampa da topo, quindi non siete Tarspok. Scusateci tutti, ma è una questione molto importante, non possiamo parlarne davanti a chiunque. Ashlen si rivolge ai rivoltosi con un tono dolce e gentile, rassicurandoli. Beppe fa un cenno con la testa ai quattro di seguirlo dentro l'atrio di un palazzo. I refrattarius non se lo fanno dire nemmeno la seconda volta e seguono Beppe, che è già entrato. Beh, motivo di questa conversazione segreta? Beppe, dice Arni, quello che hai detto là fuori è la verità. Siete media cops o investigatori? In modo provocatorio Beppe rivolge lo sguardo ai quattro. Nell'uni e nell'altro, testa di cazzo. Aki è su di giri, ma viene presa per il polso da Arni, che gli dà un'occhiata che vuol dire non rompere il cazzo, Aki. Beppe, è tutto normale. Tu non ti fidi di noi e noi non ci fidiamo di te, riprende Arni, non prima di aver dato la seconda occhiata con lo stesso significato ad Aki ed agli altri due. Andiamo avanti, su, cosa cercate? Cosa vi interessa di Carcelia? Di Carcella ci è sempre interessato bruciarla, ma è stata una delle pochissime soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci. A ciascuno le sue soddisfazioni, interrompe Beppe. È stato giusto che la soddisfazione di Carcella in fiamme ce la siamo presi noi ex sequestrati. Sai com'è, un privilegio in tanti anni di sogni e torture lo abbiamo acquisito. Hai ragione, chi più di voi poteva avere la rabbia necessaria per bruciarla? E siamo felicissimi di aver incontrato e conoscere te, che sei riuscito in questo obiettivo, ma saremmo più infelici ancora di incontrare un nostro compagno. Shh, ho capito chi siete e perché vi interessa così tanto Carcelia. Ha capito davvero? Valéry, volete chiedermi di Valéry? Siete anche voi di Refractarios? Sì, Beppe. E normalmente non lo rendiamo pubblico a chiunque, perché se si viene a sapere rischiamo di finire anche noi a Carcelia, e non solo. Cerchiamo Valéry. C'era anche lui nella rivolta di Carcelia? Si è salvato? Si è salvato? Beppe tiene sulle spine il Refractarius per qualche istante. Mi sa proprio di sì, se ricordo bene. Un'altra grossa risata e poi... Se non era per Valéry non saremmo mai usciti da Carcelia, nonostante io stesso abbia preso parte alle rivolte degli anni di piombo nelle carceri italiane. Eri un prigioniero politico, Mark irrompe nella discussione. Sì, ero uno dei combattenti rossi armati. Ora non voglio sentire le stesse cazzate che ho sentito dire a Valéry negli ultimi anni, quando si discuteva del nostro modo di organizzarci e dei nostri scopi. Ok, ok. Ha già avuto la sfortuna di colloquiare con Valéry in questi anni e immagino cosa ti abbia potuto dire sulle vostre organizzazioni. Aki dà una pacca sulla spalla a Beppe ed ora è lui che si lascia andare in una grossa risata. Chiuso argomento. Valéry. Comunque, Valéry è andato in una direzione opposta alla mia quando siamo usciti da Carcelia. E non è un caso, direi. Ma non mi ha detto dove andava, ci siamo solo abbracciati e salutati. Di sicuro andava verso il ponte che passa sopra quella chiesa a un paio di chilometri da qui. Ho capito quale, risponde Arni. Poi dà uno sguardo ad Ashlen che annuisce. Il ponte è quello vicino al palazzo dove ci sono le case dei due refrattaris. I minuti che passano sono riempiti dal racconto di Beppe sulla rivolta di Carcelia. I cinque sono seduti a terra in cerchia. E mentre Beppe racconta, gli altri ascoltano silenziosamente in una specie di trance in cui davanti agli occhi vedono scorrere le immagini della rivolta. È il crepuscolo e negli ultimi momenti di silenzio assoluto si sentono solo le voci dei bambini che giocano imitando quello che vedono fare ai propri genitori durante il giorno. Si nascondono dietro grossi scatoloni che nel loro immaginario sarebbero le barricate e fanno finta di sparare a Tarspok, ma con un particolare importante: tutti si rifiutano di recitare la parte degli uomini topo e sparano contro il nulla. Allora, con questo si chiude qui. Per quanto riguarda le dirette d'azione, il racconto di Nazero 13, che ricordo andrà avanti fino a scrivere il finale. Avrete la fine solamente. E uscirà ad ottobre in un formato stampa insieme a un CD allegato con le musiche che sono inerenti al racconto. Quindi per chi vuole saperlo tocca aspettare a ottobre. Non è fatta apposta, però purtroppo così mi sono dilungato, pensavo di fare un racconto breve, invece comunque scrivendo si è andato avanti meglio così. Allora, con oggi finisce qui la diretta d'azione per quanto riguarda quest'anno ricordo, da settembre scorso ad oggi 21 luglio settembre 2013 luglio 2014. E qui la radio, mentre il sito continuerà ad essere aggiornato quotidianamente con la controinformazione anche per il mese di agosto, settembre, la radio riprenderà le sue dirette d'azione a settembre, metà settembre circa, ora vedremo quando sarà possibile. Può darsi che vi forniremo dei contenuti audio non in diretta ma montati da scaricare, ma noi non siamo finiti qui. E non andiamo in vacanza di sicuro, quindi... Con questo vi saluto, ci risentiremo a voce a settembre, metà settembre, e chi si offende è infedele. Radio Azione. Contro l'informazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione.